Potrebbe starci, no? Arci non c'è. Arci non c'è. È andato via. Probabilmente a mangiare un arciburger. Arci non c'è. È andato A via. nutrire gli addominali. A nutrire gli Hai addominali a oberato di casa lavoro mia. perché sta Cosa? lavorando No! l'arciburger. No, tra l'altro avete visto che gli hanno fatto l'intervista quelli della Bonelli, Eh sti certo, cazzi. Bonelli, infatti non può mangiare da altre hamburgerie se non da Bonelli Esatto, Burger. Che ormai. salutiamo se ci volessero sponsorizzare, sono i benvenuti. Comunque, benvenuti, bentornati, Tycoons and Dragons, RIP GDR, recupero il mio telefono dopo questa bellissima Anche diretta un hamburger può essere Instagram. salutare. Sì, un hamburger deve essere salutare Deve essere. e la dieta è a base di hamburger. Tra l'altro, anch'io la vorrei, potrei volerla fare. Comunque, Tycoons and Dragons, RIP GDR, ci conoscete, oggi giochiamo La Maledizione di Katta, ovviamente, episodio numero 70, bravo scemo, Troppo. no, quella è la magnetta, 70. 70 la Porca. paura, cosa? E, campagna Dungeons and Dragons ormai famigerata, e vi dico questo, Vabbè, il mio personaggio oggi si suiciderà. Cioè, 70 episodi sono troppi. Madonna, che si C'è voglia suiciderà, di ma livellare? se Se ti ti diverti diverti come come un un pazzo, pazzo, Giulio. Giulio. In realtà tu poi fai sempre comunque lo stesso personaggio, quindi non c'è che non ti cambi niente, cambiare. Esatto, voglio cambiarlo. E far, cioè, far lo stesso personaggio, ma Vabbè, con un nome diverso. stavolta non è neanche troppo colpa sua, gliel'hanno obbligato a bullizzare la gente. Ma la faceva già prima, cosa cambia? Se, Sì, vabbè, però adesso ha anche la giustificazione. comunque Dopo non aver è vero picchiato, questo. devo. Per assurdo, questo personaggio è il più collaborativo di tutti quelli che io abbia mai fatto. Lo dici Pensa spesso già. questa cosa? Pensa Non già. significa che sia vera. No, è vero invece. Comunque, Pensa Cypher. lui non era molto collaborativo. Minchia. Ibo! No, comunque di questo Aspettavo. parlavi, mi sa, anche nell'episodio che ascoltavo oggi, che era il 67esimo, perché ancora non avevo sentito il 68esimo, che è stato pubblicato e fra parentesi, Katta si appresta ad arrivare, anzi, ha un'occasione unica. Perché se ha 2 settimane per, fa per andare, cioè di fatto è per andare in pari, cioè lui c'è già, è già pronto il Se 69esimo e quindi potrebbe andare vuoi, in a pari prima dell'ultima, della prossima sessione, ma proposito non di voglio mettergli troppa meme, pressione. Però, anche sulla considerando come eravamo partiti, direi che bravo Katta. Però dirò ancora più bravo quando sarà effettivamente ufficiale. Comunque, mentre Giulio Dopo che avrai una pacca sulle spalle. Giulio può essere solo che motivato nel raggiungere Katta, ma non. E Ma c'è stato comunque, un datore di lavoro molto morbido, c'è stato un questo che, no, po' di feedback. vabbè, Giulio comunque anche Giulio sta facendo un buon lavoro complessivamente, è rimasto un po' indietro negli articoli, però speriamo recuperi. Cioè, più che altro perché a me diverte ascoltarmelo prima, cioè, effettivamente, se, tipo, oggi non so fare il riassunto, perché ho cioè, saprei farvi il riassunto di 2 o 3 puntate fa. Infatti Giulio farà il riassunto, per punizione. Cosa? No, scherzo. Però, 70esimo episodio della Maledizione di Katta, smetto di parlare e partiamo con la musica. Musica? Ah no, prima di partire con la musica, volevo fare gli auguri a Giulio. Voi direte, come gli auguri a Giulio? Abbiamo già fatto la puntata in cui facciamo gli auguri a Giulio. No, perché oggi è l'anniversario del primo cosmonauta che va nello Sì. spazio, Yuri Gagarin. E quindi Giulio, auguri per questa ricorrenza. Aspetta, dobbiamo mettere una musica un po' più adeguata. È stata tolta la musica, non so da chi. Da me, perché ci Ah, vuole. perché ora vedi quella armata rossa. Beh. Ma già hai fatto la bandiera rossa, il bardo rosso. Questo sarà ancora più divertente per me bannarlo a sto punto. Non vedevo l'ora. Com'è che faccio? Elimi, oh Dio, elimi. Vabbè, ti farò ascoltare 5 secondi. Bravo. Va bene. Lo Ok. conosco, diciamo così. Quindi abbiamo Crescendo. celebrato Yuri Gagarin che sarà oggi qui con noi. E vabbè, tanti Magari. cadaveri ce li Crescendo dal abbiamo punto di sempre vista. nelle puntate della Maledizione di Katta. Vai, Giulio, con questo incipit, facci il riassunto del 69esimo Ogni episodio. volta a me mi riparte nelle cuffie con un volume È un problema clamoroso. Tutte le tuo. volte. Il riassunto. Allora, avevamo parlato, avevamo finito di parlare con il Leech, si chiamava in qualche modo strano. Avevo scritto come si chiamava da qualche parte, forse. C'è scritto anche nel coso. Exetante. Che salutiamo. E oltre a lui, ricordo, scusa Giulio, perché non l'ho detto tra le varie cagate, gli ospiti di oggi: Giulio Bosi, Stefano Gamberoni, il nostro master Enrico Cattabriga, Marco Bosi, salutiamo a casa, Edoardo Saladini, Bardo, e Francesco Arcidiacono ci dovrebbe raggiungere più tardi. L'abbiamo insultato un po' prima nella diretta Instagram, che adesso sapete che a noi ci piace insultare Arci, ma è tutta invidia. Vorremmo sgranocchiare o duetti di pasta alle 7 del mattino tra i suoi addominali, ma no. Va bene, questa figura retorica. Giulio, torna a te. Ex-Tanter. Avevamo finito il giro guida con Ex-Tanter del tempio, con l'esplorazione degli ultimi. Ciao Miki. Degli ultimi sarcofagi, e quindi le proposte di nuovi poteri. Io ho accettato un potere che mi ha sciolto gli occhi, ma in pratica. Niente di che, continuate a guardare, andate dall'altra parte. Solita amministrazione. Non mi cambia nulla perché continuo a vedere comunque anche senza gli occhi. Sono solo orrendo e senza occhi. No, e in più questo mi dà tra l'altro protezione. Non deve neanche usare gli occhiali da solo, cioè. Esatto, mi dà protezione totale alla divinazione. Quindi strada non può più sapere cosa faccio, dove sono e altre cose. Invece c'è qualcuno che ha perso qualcos'altro. È vero. Marco invece, anzi scusa, ma è sfortuna. La cosa divertente è che non mi ricordo il potere, mi ricordo solo che ho perso i denti. È quello di resuscitare tre volte. Ah sì, è vero. Però per avere questo potere ha perso tutti i denti che gli sono cascati. Ed è il potere di... dov'è che è? È un compromesso che accetterebbe. Che capasca! I denti per una volta. Il mio era Safnok inscrutabile. Quello di sfortuna era qualcuno dai mille denti. Se è vero, sì, buonanotte. Vabbè, insomma, ragazzi, non ha voluto potere, non l'abbiamo convinto. E esatto. Infatti adesso è quasi morto. Avevo una mezza idea di fare un vicious mockery giusto per farlo crollare a terra, nel senso accetta i poteri. Comunque a questo punto siamo tornati salutato Thunder e poi siamo andati sotto dove saranno gli ultimi tre sarcofagi, e ovviamente c'erano sei casse e tutte le cose dovevano essere sei casse. Ti senti male? Però, Giulio, o solo io? No anch'io. Però a quel punto non c'era molto altro da fare, quindi appena mi sono avvicinato a una cassa sono sbucate fuori le progenie. Quindi siamo tornati su, abbiamo iniziato lo scontro mentre Reis diventava invisibile e si nascondeva lì sotto invece. Ti riesci e... messo a toccare i sarcofagi. Sì, inoltre Reis ha toccato uno dei sarcofagi e ha preso i poteri di un tizio, quello che il potere che cercava anche Kevin. Ecco, quello di Kevin. che è quello della resurrezione, far risorgere una persona, ma non importa dopo da quanto tempo sia morta. E intanto noi abbiamo combattuto contro le progenie, una è rimasta giù terrorizzata dai poteri, dagli influssi divini di Vez, di Vardistran, e mentre le altre hanno scalato, sono arrivate su, ma sono state affrontate variamente Patka che si è trasformato in un dinosauro L'anchilosauro. Anchilosauro, sì. E infatti questi sono trovati, sono cioè l'immagine di questi vampiri che arrivano e si trovano davanti un anchilosauro. E comunque le altre sono state, alla fine sono state tutte abbattute. Stranamente Exa Thunder non c'era più nella biblioteca che avevamo lasciato tipo un minuto prima. Abbiamo anche provato a chiamarlo, ma niente. Esatto, abbiamo provato a chiamarlo, non ha risposto. Quindi a questo punto dobbiamo tornare giù per affrontare l'ultima progenie spaventata. E Kat, non ti sentiamo. Potrebbe essere un problema, se è il visto che è il master. Oppure un vantaggio. Oppure un vantaggio, un'opportunità, cosa un'opportunità dici? Commerciale. Siamo di livello. Così? Bravo. Sì. Così sì. Sì, così ci sentiamo. Avevo cliccato il mute. Ma cosa potevo fare io? Launch game? E quindi niente, dobbiamo scendere, dobbiamo scendere di nuovo nella sala sotterranea e non lo so, scoprire dove, che fine ha fatto Race e affrontare l'ultima progenie. Beh, Race era tornato su a combattere. Non vedo quasi un cazzo, però forse posso farcela. Ah, cazzo, sì? Perché vedo sgranato. È vero, sì. Mappa su Roll20. Quindi, no, ok, sappiamo che fine ha fatto Race. Boh, io le vedo, okay. Cioè, vedo i giocatori e tutto, cioè le icone bene, ma è sfocatissima la mappa. Le icone bene, ma la mappa... Cioè, oddio, forse zoomi non... molto, è un po' sgranata, però io la vedo abbastanza bene. No, parecchio. Boh, forse non l'ha ancora caricata bene. Ah, sì, no, tu fai così, dezooma un sacco e rizooma dentro. Ok. Ah, vedo i vostri tiri. Ok, sono andato via, ora rientro. Come faccio a fare un tiro? Così, posso scegliere tipo un D20. Sì. Lo vedete? Sì. Dovrei connettermi. Vai, vabbè, adesso non si vedono i tiri. Più o meno, un pochino è migliorata, ma non tanto, vabbè, comunque capisco. Ah, hai fatto 13, sì. Ma poi 13... Allora, al contrario, zoom tantissimo e poi zoom un po' indietro. Ma tipo, poi faccio tipo, che ne so, più 3 e faccio roll. Perché questa cosa multi? 19. Minchia, buono. Ma la base è quando carichi la scheda del personaggio con tutti i dati e le abilità e tu clicchi su quelle e lui tira in automatico il dado col modificatore in automatico. Ma è inutile farlo al 70° episodio. Esatto. Ma hai visto che ce ne sono altri 20? Forse sì. Beh, purtroppo è un bello sbatto caricare la scheda del personaggio. Cioè, almeno per la prima volta, poi magari uno che impara lo fa anche velocemente, ma io sono proprio alle prime armi. All'improvviso. Boh, comunque non sembra molto complesso da usare per me così. Molto bene. I dadi si tirano i dadi. Sì, esatto. Vabbè, sì, tu che sei anche la diretta, effettivamente può essere problematico. Quindi, configgete le malvagie progenie. Race si è palesato attaccandone una alle spalle. Sì, sì, mi ricordo. E vedete che non ha proprio una bella cera, anzi. La progenie? Sembra. No, Race. Sembra quasi la sposa cadavere di un film di Tim Burton. Sì, è vero, è diventato uno, cioè ai nostri occhi è tipo uno zombie, però non ha la pelle marcia, però è sì. No, è tipo perché abbiamo preso il potere, una mummia ma viva, una mummia nuda, cioè ha tutta la pelle rinsecchita, tutto rinsecchito lui, come se fosse un po' mummificato, però senza essere stato veramente mummificato. Cioè tipo, oh no, c'è rimasto un'altra progenie. Ah no, Ray, ciao, a posto? Cioè, più come se fosse uscito da Auschwitz, tipo. Esatto, riconoscete i suoi baffetti e i suoi vestiti. E la sua fisionomia allora, abbiamo generale. Abbiamo Auschwitz e baffetti molto vicini. Allora, di cosa stiamo parlando? Spero che nessuno abbia attivato i sottotitoli. Mi hanno sempre di Auschwitz. Sì. Cioè, oddio, effettivamente dipende dalla lingua, forse. Magari in italiano fa fatica. Uccidete l'ultima progenie al piano di sopra. Cioè, oddio, effettivamente dipende dalla lingua. Eccoli. Sentiamo l'audio. Sono generati automaticamente. Sì, ciao, Dio, effettivamente. E quindi dobbiamo ripetere Auschwitz e vedere se funziona. Effetti. Progenia. Effetti. Bene, per fortuna abbiamo ancora il nostro gioco preferito. I sottotitoli, ovviamente. Sì, lo prende comunque. Bene. E viva. Bravi tutti. Un'altra vittoria. Bene. Altro quando che sentite noi abbiamo questo. Dal piano di sotto provenire, sentite delle risate di una persona singola nell'oscurità. Casimir. Vabbè, è una voce che riconosciamo, immagino. Di no, ma no, cioè, mi affaccio di sotto. Al piano di sotto. Mi affaccio di sotto. Tanto abbiamo sconfitto qua sopra, dobbiamo scendere. Quindi. Sì. Ok, chi scende insieme ad Atanas? Io come sono messo a punti per età? Esatto, fai un recap. Ne hai ben tre. Beh, io ne ho 18. Vai, scendo anch'io. E io e sfortuna di tutti così. Tu ne hai ben 33 e sfortuna ne ha 10. Vabbè, siamo tutti messi da Dio. No, scusa, vabbè, prima di scendere più 10 di temporanei. Riesco, se mi affaccio riesco a vedere qualcosa. Con scuro visione. Bravo. Scuro visione riesce a vedere però. Nell'angolino dove si era rintanato l'ultima progenie rannicchiata, che appunto è lì che sghignazza di una risata quasi isterica, un po' come Joaquin Phoenix quando fa il Joker. Oh, bello. Ride e piange insieme. E questa è la progenie che è rimasta sotto. Sì. Io so che prima era l'influsso della magia, della divinità di Vetz, del suo essere spaventato. Cioè, ce l'hai detto, Vetz, che sei stato tu a spaventarlo. Sì, ma lo vedete, cioè, lo ha fatto la Bjur, mi pare, no? Mi sembra di sì. Allora chiedo. Cioè, non è che avete cioè, oddio, è vero che voi avete una bassissima opinione di me, però, tipo, vedete me, mi faccio tipo, immonda creatura, vai via di qua, lui fa. Sì, ma queste due cose sono nessuno di noi ha una bassa opinione di te, anzi ti stiamo seguendo nonostante non siamo nessuno di noi sia d'accordo con quello. Allora chiedo, cioè. Vabbè, descrivo quello che vedo, dico che è la progenie che si è messa a strillare come il Joker di Wonky V. Dici così? Sì, assolutamente. E chiedo a Vetz se è colpa della tua... No, ma ragazzi, l'hai resa tu così? Cioè. Io l'avevo semplicemente bloccata, ma deduco che sia passato anche il tempo in cui sarà bloccata. Beh, un minuto no, non è ancora passato, erano passati tipo 4 turni o 5, sì, ma ne abbiamo ancora 5. Erano passati alla narrativa, vero Katta? Erano passati 5 turni, in realtà è appena finito lo scontro. Eh no, scendiamo e l'attacchiamo, cioè noi lo sappiamo che c'è un'altra. No, sì, però qua per chiedere... Ma secondo te? Vabbè, facci fare un minimo di ruolata, dai. Elisa, è comunque, noi scendiamo, lei è lì che ride. Sì, questa risata isterica un po' da pazzo. Allora, voi siete qua, sfortuna, Vardistran, Atanas, Garrosh. No, se scendi... Io l'apostrofo. L'apostrofo, immonda creatura, cos'hai da ridere? Il tuo tempo è arrivato. Lui ti virgola o ti accento. Lui si gira verso di te continuando a sghignazzare e dopo un po' le risate diventano un lamento, come se avesse, non so... dei ferri roventi infilati nel corpo. E ce li ha? No, però come per rendere l'idea del, come dire, della sua sofferenza. Possiamo usare il dinosauro, perché noi siamo messi maluccio. Il dinosauro potrebbe far fatica a scendere quelle scale. Salta. Vabbè, forse questo è il momento di parlare. Ma che parli che tra 5 e 30 secondi finisce il tuo effetto? Aspetta, dai, magari c'è una narrativa che sblocca tutto. È il momento della Beh, non cinematica. è normale che stia facendo sta cosa qua, mi sa. No, stavo riguardando a Bjorn Enemy. Cioè, Bjorn sta tipo lui sta lì e fa è terrorizzato da te, no? Sì, anche se prende danno, continua sta lì l'azione. fermo, però tu. Ah, anche se ti prende danno. L'altra volta Vezza aveva detto se lo colpiamo si riminchia. Non mi ricordo, avevo fatto a Bjorn. Ah, sì, è vero, è vero. Sì, è finché non prende del danno. Quindi è tipo un paradosso. Non dobbiamo colpirlo, ma dobbiamo ucciderlo. No, l'idea no, è che si va, si va tutti contro una uno. Una grossa incudine su di lui che cade nel momento in cui... Va bene. Esatto. Possiamo... un grosso dinosauro. No, però lui sta facendo una cosa strana. Noi possiamo avvicinarci tutti lì, preparare tutti l'azione, attaccarlo tutti assieme. Quindi sta soffrendo, ma non dà segno di aver intuito le mie parole. Le tue parole... Sì, lui le ha capite, ha avuto una reazione quando le hai dette. Me le ripeti? Immonda creatura, cos'hai da ridere? La tua fine è vicina. Ti risponde. Hai ragione, stolto paladino. La fine folle, è qui. Folle. No, oggi è tolto. Beh, sulla fine qui io mi faccio avanti e estraggo le spade. Vabbè, io... Hai ragione, folle paladino, la fine è qui, mi ha detto. Sì. Sì. È la mia battuta d'ingresso. Io preparo un attacco se qualcuno comincia l'attacco, sia l'avversario che attacca. Teniamo la stessa iniziativa Aspetta. Dell'altra volta. Sì. Metto un attimo tanto abbiamo ancora un turno forse. Per comodità sì. Potremmo fare così effettivamente. Metto la mano un attimo su Atanas e dico, spiegati meglio, obbrobrio uscito Parla dalle tenebre. E Atanas risponde. Ah no. Ehi, modera il linguaggio. Ehi, mi conosci da un sacco di tempo. No, potrebbe prenderlo come un complimento, proprio uscito dalle tenebre. Ehi, grazie. Lui ti apostrofa e dice... Io. No, non rindugiate. Distruggetevi presto. Perché se rimarrò qui... L'onta del mio fallimento mi procurerà un'eternità di dolore e di tortura. Distruggetevi subito. Da Prima parte di chi? Da aspetta, parte di chi? Possiamo legarlo. Giulia! Va bene, cioè, in effetti, scusami, se sta per morire da solo e ha un'eternità di sofferenze, lasciamo. Scusa, cioè, non ho nessuna intenzione di fargli un favore uccidendolo, se per lui uccidere non fargli un favore. Cioè, o almeno non così velocemente. Da parte di chi? Chi è il tuo padrone? Lui smette di ridere, e di ridere in realtà adesso stava più che altro soffrendo... Come dire, compiangendosi, ecco, disperandosi. E si rifà serio, come dead serious, come direbbero gli inglesi. E abbiamo tutti delle matite. Sono nel Monster Pack. Dai, Giulio! Vi dice sconsolato, vabbè, oramai... Io non sono netto, comunque. Cosa hai detto? Io intanto mentre parla, così non scadono questi 30 secondi senza che Giulia ha imparato la lezione. La narrativa non si fida. Non mi ricordo più una cosa. No, sta mentre c'è lo scambio, io lo manetto, cioè mica faccio niente. Non dipende se lui sta fermo e ce lo fa fare. Sì, sì, penso che debba stare fermo. Ah sì, beh, perché hai ragione. Lui è terrorizzato da Vezza. Sì, lo puoi fare, Sì. Oh, blu. Da butita budà. Sì. Lui vi dice troppo tardi. La sua voce è grave e sconsolata. E aggiunge, le tre ultime parole. Lui è qui. Sì. Dal centro della scala una gigantesca fiammata di colore blu erompe dal pavimento. Al suo centro vedete una figura riccamente vestita. Non sono io questa volta. Fortuna. Sfortuna. Ah, lo conosco ormai questo trucco. Beh, effettivamente gli ultimi due che avete visto erano tutte illusioni. E la progenie si prostra tipo non inginocchiandosi, proprio come si dice, genuflettendosi, ma in realtà terra. Non può farlo se è ancora sotto il mio incantesimo, perché tu dici la sua velocità è zero e quindi non si può. No, infatti non può fare azioni né niente, esatto. Il che potrebbe renderla ancora più isterica, perché magari non riesce a fare quello che dovrebbe fare. Ehi, tu come ti permetti? Sì, guardi, Conte, una vergogna, veramente. No, non penso che impedisca di... Se uno è sdraiato di alzarsi o viceversa, se è in piedi di... No, forse se non si è sdraiato non si può rialzare. Ma si fa cadere a terra, però, insomma, magari. Se si fa cadere a terra, come fai? Va bene, dai, Katta, non ti volevo bloccare qui, anche se creerà un pericoloso precedente. È lì che striscia. Sicuramente. È lì che striscia. E al centro della strada, il vostro amico Strad von Zarovic. Sai che hai detto che al centro della strada, vero? Della strada. Il vostro amico Strad von Zarovic. Sal von Zarovic. Il vostro, esatto, Stanz. Stanz von Zarovic. Cos'è questo, questa luce? Ah, è quella del paladino. Esatto, si è materializzato. Ma comunque non l'hai ancora messa l'immagine qui su Discord, però. Qui su Discord che immagine vuoi mettere? No, non metti la mappa di solito. Ah no, cazzo, me lo sono scordato. Che risate. Ero qua che muovevo tutte le cose per farvele vedere. Ed era tutto inutile. Che ironia. Sei stato disconnesso. Tieniti forte. Ora ti stiamo riportando dentro. Ah, eccolo. Ok. Sono tenuto forte. Tenetevi forte! Ok, compare Strad. Bella. Bella. Ah. Da una fiammata blu. E quindi tu, Atanas, ti ricordi la filastrocca del braciere. Diceva proprio... c'erano tutte le sue palline. Tutte le pietruzze con i colori associati a luoghi. E il blu diceva: prendi il blu se vuoi andare al ventre della magia. Comodo, quindi... per arrivare proprio qua. Sì, il ventre. Invio un messaggio a Varristan dicendo: ma scusa, allora per... Svelto, prendi un potere, svelto. Ma allora anche per andare via bisogna partire da qui, da quello che io ho capito. È una possibilità. Se uno ha la possibilità di usare questa strada, quindi se Radi è andato via, deve essere arrivato fin qua. Sì. Quindi deve essere passato da Exatander. Vabbè. No. No, non per forza. Ma noi non si accede dalle stanze di Exatander qua. C'è anche la porta segreta dietro la statua che porta a questa scala. E sbuchi dietro al No, sbuchi al piano di sopra in realtà, da qua. Ah, al piano di sopra. Sali e sbuchi direttamente nella biblioteca. Ok. Che ci dice? Oh, bella Strahd. Non abbiamo... Ah. No, aspetta, qualcuno ha un'arma magica? No, via! Via! Ah, vi dice... È da tanto tempo che non ci incontravamo. Ma devo dire che avete fatto un... Avete portato a compimento un'impresa eccezionale. Sono... ammirato. E non è da tutti arrivare fin qui. I miei più sinceri complimenti. Ma ditemi una cosa. Avevo percepito che qui in queste, entro le mura di questo splendido luogo, foste accompagnati anche da altri individui. Che fine hanno fatto? Se siamo stati fortunati, se la sono vista col Golem d'Ambra. Oh. È una, un destino molto triste quello che incorrono coloro i quali devono affrontare una minaccia del genere. E li avete lasciati soli a questo triste destino? Cosa potevamo fare? Sembrava non potersi difendere da soli. Anzi, noi eravamo e siamo messi piuttosto male. Loro erano, per quello che abbiamo visto, molto più in salute e in forza di noi. Ah, capisco. Bravi, bravi. Avete comunque utilizzato... erano nella stanza e boh, dico più o meno in che stanza li abbiamo visti entrare. Va bene. Alla destra della casa dell'ingresso. Esatto. Se guardi la statua, se no sì, alla sua sinistra. Fronte alla statua. E lui dice, ah, bene, capisco. Insomma, li avete sfruttati per il vostro comodo. E sacrificati sull'altare della vostra bramosia e del vostro desiderio. Potremmo dire così, o potremmo dire che loro volevano sfruttare noi, e anzi ci hanno in parte sfruttato, e noi abbiamo lasciato che gli eventi accadessero. Oh, certo, certo. È sempre bello quando coloro che vogliono salire di livello salgono. Salite di livello. Ah no, sono io che sono andato fuori. Arca miseria. Boom. Brutta storia. No, allora. Amici del podcast, problemi tecnici, amici di Facebook, problemi tecnici, amici di tutti i luoghi, problemi tecnici, ma proveremo a tornare online appena possibile. Vediamo se sono l'unico ad avere questo problema, se è stato disconnesso. Masterovic. Eccoci. Oh, perché cioè, te ne eri andato? No, come me ne... come sì? Ah, voi no? No, noi, io e Giulio eravamo qua che continuavamo. No, io ero perso espulso. Ma tipo era tipo io cioè è stato veramente così, cioè pensavo ti fossi bloccato, tipo perché hai detto tipo, ah sì, per coloro che vogliono, tipo... Allora, tipo, tu sei bloccato e io ho detto, salire di livello, salgo di livello. E Discord è crashato, fatti una domanda. No, eri già crashato. No. Vabbè, quindi, cosa ha detto? Tu... Si sono baciati con Giulio? Sì. Sì. Praticamente. No, Strahd ha detto, è sempre bello tipo che coloro che possono fare qualcosa per cambiare le cose poi non lo fanno, e io ho detto, vabbè, ma noi in realtà ci abbiamo provato a cambiare le cose. Io ho provato a colpire Kevin, cioè Kevin Casimir, però non l'ho colpito bene. E lui fa: ma perché volevi colpirlo? Perché avevo promesso la sua testa. E lui mi ha detto: ah, sono ammirato dalla costanza con cui tu fai le cose. La sua malvagità, Conte, non ha fine. Tentare di metterci contro anche in una situazione del genere, nessuna pietà da parte sua. Così mi fai arrossire. A che cosa dobbiamo questa visita? Lui dopo appunto quello che aveva sentito dire, ad alta voce dice: io ho sentito abbastanza. E tu invece, dice, rivolgendosi dall'altra parte della stanza, vedete che in quest'angolino ci sono la parete collassata e ci sono due grosse crepe nel muro che formano dei pertugi. Vedete che c'è un piccolo smottamento di pietra provocato da qualcuno, una figura umanoide che si sta strascinando, strusciando contro queste pareti rocciose per venire dall'altra parte, facendo molta annaspando e facendo molta fatica. Non buono. Dopo un piccolo crollo di qualche masso, di qualche roccia, vedete che spunta la cara amica Irina. Dov'è finita? Dov'è la cosa di Irina? Questi sono i quattro. No, vabbè, l'ho persa. Ma un po' quell'Irina lì va bene. Quella. Forse era in un altro piano. È l'Irina Sponca? O... Vabbè, dai, va bene anche quell'Irina lì. No, era quella originale. Poi è finita. È in un altro piano. Quella lì è l'originale o quella Sponca? Quella Sponca. Quella originale. Sì. Eccola. Coppia 'dentro una palla di fuoco incolla. Vedete spuntare molto, ma ridotta, la povera Irina, e dietro si sta trascinando un corpo che ovviamente è quello dell'anno. Porta un paio d'ali molto mal ridotte, sicuramente sono state spezzate. Il corpo è privo di... mamma, che macello. No, è inanimato, nel senso che è privo di sensi, cioè, ed è esattamente ferito. Dentro il corpo. Ok. Ed è molto stremata dallo sforzo, perché capite che portarlo Ho fatto un altro meme, pubblicalo questo, vale solo adesso. Vale solo il corpo, adesso. L'angelo ha la spada. Sì, vale adesso come battuta, se vuoi mettere. Non vedi se non sta brandendo. Posso metterlo come storia. Sì. Non ci sono fonti di luce, quindi sicuramente la lama, se ha lensa, la lama non è attiva. Non è ben visibile, magari ce l'ha da qualche parte. Adesso è ancora mezzo dentro il buco, quindi si vede bene. E niente, la povera Irina è sconvolta, sembra miracolosamente scampata da un qualcosa di un massacro terribile. Tutto bene quel che finisce bene. Esatto. Ah, quindi, scusate, mi ha crashato, ho perso qualche passaggio. Quindi abbiamo Strada e Irina nella stessa stanza. Esatto, missione compiuta, ragazzi. Missione compiuta, sì. Ah, ok. Bene, perfetto. Bezza le mani nei capelli, non so cosa voglio dire. Vabbè, ma tanto ormai. Vediamo adesso cosa succede. Irina è sconvolta. È ancora in tempo per entrare nella squadra. E balbetta le parole, come anche le mie, escono a fatica dalla sua gola. E dice, guardandovi con gli occhi sgranati come quelli di chi si sveglia da un incubo e si accorge invece che ne ha iniziato solo appena un altro, e vi dice: dove eravate? Eravamo in trappola, gli altri sono morti, perché non siete venuti ad aiutarmi? Giulio, non ci avevano abbandonato dietro. Oh, ma scusami, oh, vabbè. Dai, io non sono d'accordo con la risata di Giulio, scusa, non volevi ucciderlo tu. Però cioè, alla fine che cazzo dobbiamo fare noi? Cioè, siamo lì stremati anche noi. Cioè, poi, cioè, secondo me non è molto. Magari è morto per un punto ferita e quella freccia. Atanas fa una faccia molto seria, ma dentro sta esattamente facendo quello che ho fatto io prima. Fa una risata molto seria, hai detto, Giulio. No, una faccia molto seria, molto, molto composto, ma dentro sta proprio, cioè, proprio ridendo sguaiatamente. Pensavo che ridesse sguaiatamente e basta. No, perché c'è, come si fa un po' di contegno comunque. Puoi leggerlo negli occhi che sta ridendo. Esatto. Ride con gli occhi, sì. Rido con gli occhi, con le cavità oculari ride. Strad allarga le braccia guardandosi intorno e dice: beh, che cosa c'è, amore mio? Non era questo quello che volevi? Quello che sei venuta a cercare portandoti dietro quelli che pensavi fossero i tuoi alleati? Guarda che cosa hai ottenuto. Adesso probabilmente non avrai più un signore oscuro all'interno della tua valle, ma potresti arrivare ad averne anche 5 o 6. Scusa, che se è una metafora. Gang bang. Cosa sta dicendo? Il mio personaggio si commuove e dice: scusate, piego sempre i matrimoni. Tutto quello che hai fatto, tutte le tue lotte e tutti gli sforzi alla fine ti hanno portato a questo. Tu veramente credevi cosa di poter, che potrebbe essere anche rivolto al paladino? No, lui parla unicamente a lei. No, quasi, certo, come però vedi, tutti questi 5 o 6. E adesso dice: che cosa farai quando per i secoli a venire tutte le genti di Barovia, di generazione in generazione, io preparo l'azione, se prova a suicidarsi la blocco. Beh, perché fedele fino in fondo. No, non voglio che si suicidi, perché poi non so come Strat possa reagire. Potrebbe reagire effettivamente. Se uno è vivo può combattere sempre, può sempre tornare a combattere. Se uno è morto, cioè può, però è più difficile, più complicato. Conte Strad, non per interrompere questo bellissimo monologo, ma prego, nobile Vardistran, non è forse stanco di ripetere la stessa scena per l'eternità? Forse nell'assurdità, che forse anch'io faccio fatica ad accettare di quello che sto dicendo, ma se collaboriamo potremmo mettere fine alle sue sofferenze. Per esempio, sue intese di quali? Intese di chi? Sofferenze di chi? è una frase aperta a varie interpretazioni, alla sua di Strad. Eh, È proprio quello che spero, mio caro Vardistran. Per esempio, se ora lei stesse fermo, io potrei col paletto. E se non fosse stato per voi, forse non ci sarei mai riuscito, ma non è ancora finita. Non voglio che mi si dica grazie. Non è ancora finita, manca un ultimo importante tassello. E continua a rivolge di nuovo ad Irene. Vedi, ora è tutto in mano tua. In tutti questi secoli, in tutte queste vite, non hai mai avuto questa possibilità. Prima d'ora. Io sono qui ad offrirtela su un piatto d'argento. Hai la possibilità che tutto finisca, di prendere il destino nelle tue mani e farlo tuo. L'argento. Perché? Ai vampiri comunque no. Cioè no, in realtà nel folklore sì. Ma cosa c'entra? Vabbè, forse hai ragione, ma che c'entra? Hai detto il piatto d'argento, vabbè. Allora sarà un piatto d'oro. Strad appunto continua il suo dialogo in stile imperatore della serie. Senti l'odio che scorre nelle tue vene e libera il tuo potere, diventa quello per cui sei nato. Ha rubato proprio tutto il dialogo. Il tuo amico Juan, è amico della Repubblica, allora. Ma lei reagisce perché normalmente lei cosa succedeva? Cioè lui la perdeva perché lei si ammazzava o veniva uccisa, giusto? Da quello che avete capito, lei è parte integrante della maledizione. Della maledizione, che è come se fosse un'eterna tortura messa in atto dagli stessi poteri oscuri, gli stessi che gli hanno dato il potere a Strad, comunque come se appunto lui fosse nel suo personale inferno e fosse eternamente tormentato, ogni volta trovavano un modo per sottrarla alla sua presa. Ma domanda, questa è proprio l'anima della sua prima amata che si reincarna, o sono persone diverse che a causa della maledizione... No, è la reincarnazione, è proprio l'anima. Normalmente è la reincarnazione, ma lei adesso ha qualcosina di più, perché se vi ricordate quando l'avete portata a Kretzk, esatto, aveva visto l'immagine del suo promesso sposo, il fratello di Strad, e in lei si erano risvegliati appunto i ricordi di tutte le sue vite precedenti e anche chiaramente la prima, quella di Tatiana. E questo, diciamo, le ha permesso anche insomma di avere un po' una marcia in più, non essere diciamo solo la donzella in pericolo che andava salvata. E quindi in questo momento è chiaramente sotto shock. Ma vedete che appunto dopo magari una prima fase in cui la paura regnava sul suo sguardo, comincia a dipingersi di una nota più di rabbia e di odio. Sta, diciamo, attraversando le fasi, come dire, del somatizzare le informazioni, quello che ha visto succedere, quello che ha scoperto entrando qui. Strada aggiunge un'altra cosa Ed è, se non vuoi farlo per te stessa, almeno fallo per lui, indicando, facendo un cenno verso il corpo del povero Ilia. Ci sta un investigation, un perception? Per percepire che cosa? Cioè, se lui è onesto o stia invece proprio ingannando meramente. Cioè, magari lui è davvero convinto di questo, oppure invece dice, no, vieni che stavolta l'inganno io. Vediamo come potresti percepirla. Con un investigation di solito, no? Che non è il mio forte, ma... Penso sia più insight, esatto. Ah sì, scusami, non investigation, insight. Vabbè, faccio schifo in entrambi, quindi poco faccio. Però non si sa mai. Provo anche a fare l'insight. Ecco, l'insight magari tu 30. Sei più bravi. 30 o 3? 13. Io faccio 9. Nada. Mi sembra che ci creda veramente. Se fosse stato una semplice preda come potreste essere voi o qualsiasi altra donzella da rapire per potersela succhiare, a lui sarebbe bastato molto poco, ovvero qualcuno tra di voi sa già quanto possa essere affascinante il suo sguardo, e quindi quello avrebbe, se fosse stato solo una cosa del genere, avrebbe chiuso la questione molto più velocemente. E quindi sì, la vostra impressione è che ci creda veramente che possa fare qualcosa per risolvere la sua condizione. Athanas, fammi un investigation. Non insight? No, voglio vedere le sue doti da dottore, da detective. Super detective, Giulio! Sono molto provato, quindi sono scarse. Va bene, ci sta. Super 7. Detective, Giulio. Anche perché sì, probabilmente il tuo pensiero principale è come scotennare il povero Ilia. No, io in realtà sono pronto che se lei tenta di suicidarsi intervengo, poi sì, voglio uccidere Ilia, però voglio prima impedire di essere ucciso da strada in un impeto di rabbia. Rega, ho finito ora, sono ribaltato, mi preparo per andare in branda, mi spiace. Gli scrivo, tranquillo. Stiamo tirando l'iniziativa. C'è solo lo scontro con Strad. Perché comunque siamo tutti consapevoli che in questo momento non abbiamo... Cioè, Strad non possiamo neanche durare un turno sostanzialmente. Quindi. Ah no. No. Purtroppo no. Però... Ma contro qualunque... Una volta si è ingannato, si potrà fare. No. Allora... Spidiglio, te la portiamo noi, aspetta pure, tranquillo. Sì, esatto, perché fare così tanta fatica dai monti? No. Attualmente i miei obiettivi sono sostanzialmente: il primo è che Irina non tenti di suicidarsi, a intervenire nel caso, e poi possibilmente dopo vedermela con Ilia. Dico, Conte, questa è follia. Andonio. No, scherzo, dico, Conte, forse è arrivato il momento che sia lei a fare un primo passo, mostrando un briciolo, quel briciolo di umanità, se le è rimasto, un briciolo di compassione. Solo lei ha il potere di liberare le genti di Barovia. Forse se lo farà, Irina potrebbe avere una visione diversa di lei. Compresa l'anima del tuo amico, ricordo. E Sara si vede Sara che fa Non ho capito che cosa intendi, scusa. Lui può far entrare e uscire la gente da Barovia. Fai uscire la gente di Barovia da Barovia, così sono liberi. Fai uscire la gente di Barovia da Barovia. Sì. Un discorso è potere, un altro è volere. Appunto dico, se mostri che sei magnanimo, magari Rina dice, vabbè, se questo è il mio, visto che tanto comunque è legata a lui, in ogni caso, quindi non c'è un Irina fuori da Barovia, dice, va bene, rimaniamo io e te qui. Ti devi sbrigare perché su Roll20 Atana sta calcolando dove può arrivare, quindi credo sia per agire. No, io gli offro questa visione, io gli offro questa visione qua, cioè... visto che lei dice ora tu puoi fare la svolta, ho capito, ma lei gli sta sul cazzo per tutta una serie di motivi. Magari se te per una volta fai una roba diversa da uccidere, prendere in giro e togliere le armi magiche alla gente, ai poveri avventurieri, magari occhio che hai un'arma magica. Buono. Comunque io controllavo solo di essere a distanza di un movimento di Rina, perché se devo intervenire per evitare di un possibile suicidio. Scusami, la mia è assolutamente una proposta ragionevole. Sì, sei un movimento di distanza. È una proposta ragionevole, poi dentro ci terrà quelli che non hanno un futuro fuori, che cazzo ne so, i paladini mezzi morti, i licantropi... cioè quelli lì va bene, però quelli che hanno venduto l'anima eccetera, però insomma quelli che invece magari sono ancora normalini e avrebbero una possibilità fuori da qua, compreso me fra parentesi lasciaci uscire e così mostri la tua magnanimità, questo è il concetto. È molto nobile, Vardistran. Sempre nobile. No, io voglio stare. Posso tirare un persuasion allora? No, non puoi. No, non sai perché sai che potrei vincere. Di la verità. Sai che potrei vincere. E vincere così la battaglia. La verità. Porta a casa. Okay. Ti invita, ti dice Vardistran. Zitto, va. No, dice. Lasciami finire la cinematica. Dice: guarda il suo sguardo. Guarda, sì, osserva il suo sguardo. Non c'è magnanimità su questa terra o su qualsiasi altro piano o semipiano. Questo Irina me lo dice o Strad? Strad sta parlando adesso, che ti dice, guarda lo sguardo. Di chi? Di colei, che ha perso tutto. E ti dice, non c'è magnanimità che in questa terra o in qualsiasi altra che possa cambiare quello che prova. E va bene così. Io desidero solo che lo esprima. Ed è questo che le sto offrendo. Non pretendo certo che mi guardi con lo sguardo amorevole di una principessa o una consorte asservita al suo padrone. Ma voglio che divenga lei padrona di se stessa. Boh, rega, c'ha ragione lui alla fine, dai. Ma io lo dico all'inizio praticamente. Questa campagna di emancipazione. Poveretto. Improvvisamente, così, debotto. Senza senso. E se non fosse stato per voi, probabilmente, non sarebbe mai giunta a questo punto. Ora, mentre sto parlando, piano piano, nella sua mente, si sta insidiando la consapevolezza di quello che dico, di che quello che dico è vero. che gli eventi si sono stati messi in moto, hanno provocato dapprima una piccola slavina e poi via via che le pietre del destino sono discese dalle pendici della montagna del Fato è diventata una valanga incontrollabile, a meno che tu non prenda la decisione. Che cos'è questa cosa? Pianeta. Ah. Cos'è? Oddio. Bello. Perché? Boh. C'è Strad che fa tipo Chaplin nel Grande Dittatore. Sono io che gioco con i cose. Ok. Vabbè. E quindi? Quindi? Irina si alza in piedi, dritta con la schiena, fiera, il suo sguardo di ghiaccio. Guarda dritto negli occhi il suo odiato pretendente. E gli dice: salva lui e farò ciò che dici, indicando il corpo. E dai, stronza, ingrata, pezzo di merda. Provare a metterti lì. Fa culo. Ma tutto questo conta come riposto breve o no? Classica battuta del power player, tanto che cazzo ti cambia anche il riposo breve, se comunque ha frutta. Beh, posso uccidere Irina senza che lui lo noti. Non so se sia una buona idea. Cioè è proprio la cosa da non fare. L'ultima volta che qualcuno ha ucciso Irina, la città in cui abitava è stata distrutta. È diventato Kevin. È molto alla sfortuna questa morte. Però io mi posso risorgere, quindi a te sì. È vero. Grazie. Pezzo di me. Stronzo. Detto ciò. Quindi vuoi salvare Ilia? Esatto. Lui dice: salva lui e farò ciò che dice. Sì, ma ora lo vampirizza. È un angelo. Eh beh, ma Strad come c'ha per salvarlo? È un'ottima domanda. Avrà qualche rituale? Beh, alla fine l'ha creato lui, con il mio sangue. No, non con il mio sangue. No, quello è stato l'angelo per crearlo con il mio sangue. L'abate. Però la... Folle. È stato l'abate. Però Strad l'ha sbloccato. Mi ha fatto diventare un angelo. Ci sono dei ritratti. Non c'è il Tarrasque? Non mi ricordo. Cioè, lo devi caricare. Ecco qua. Lui sì. Eccoti. Oh. Yeah. No, mettiamo... Si blocca le dita. Metto un basilisco. Ma che cazzo sta succedendo? C'è un basilisco. Non lo vedo. Ah, cazzo, ora lo vedo. Toglio, Giulio. Che già abbiamo troppi problemi. Ecco perché non caricava. Sai com'è? Stava caricando una mappa a forma di basilisco sopra un'altra mappa. E lui schiocca le dita. E sempre dal punto da dove è arrivato lui si innalza un'altra grande colonna di fiamme blu. Al centro di queste, c'è un cadavere di una donna, spunta un nano che indossa un'armatura. Ah, il mio bardo grande. No, no, è non cosa, è Baer. Baer. Era un nano. Sì. Era proprio un nano. Ma va, non me ne ricordavo solo. No. Lazzo. Potevamo contattarlo. È venuto qui a curarci. Che non ci ho pensato. Chiamiamo, evochiamolo. Laz. Vieni a noi. Però sicuramente seguendo. Ah no, ci segue solo su Instagram, vero? In mano ha due oggetti. Uno è un libro che riconoscete essere quello che avete trovato. Cos'è, Vegeta? Cosa? Beh, visto da lontano mi sembrava avere il coso nei capelli. Dai, Katta, scusa. Lasciatelo parlare. Vedete che in mano ha un libro che è quello che avevate trovato nella vetreria nel laboratorio di vetreria di casa dei Martinkov. Mm-hmm. Giulio. Allora, dove hai trovato lo Space Marine? Ah, è vero, ma ci sono anche quelli. Lo sto facendo io. Beh, chiunque. Però l'ha fatto mio fratello, un minimo. Smettetela immediatamente. Ma come si fa? Al collo porta un pendente a forma di sole che riconoscete essere il simbolo del corvo. E nell'ultima mano, io. Esatto. E nell'ultima mano vedete che tiene la testa di una bambola. Quante mani c'ha? Oh. Oh, esatto. Il medaglione l'aveva al collo, ce l'ha al collo. Il simbolo libro del corvo. Ce l'ha al naso. Esatto. E la bambola all'orecchio. Con un grosso piercing. E nell'ultima mano trovate un terrasco. Trovate il basilisco. Cammina lentamente verso. Ci sono anche gli alieni. Io sono sconvolto. Dico, Byrne, ma che... Lui si gira un attimino verso di te. Ah, io? Sghignazza qua tra sé e sé e continua a camminare. Dice, adi, faccio la mia manovra adesso. Cosa hai fatto a quel bambino che ha la mia faccia? Quando si trasforma in angelo. Altro adesso è un angelo, no? Esattamente. È in forma angelica, quindi ha la mia faccia, veramente. Colin all the Julius. Solo che ha gli occhi, mentre io non ce li ho più. Esatto. Tu quindi gli dici cosa gli hai fatto. Mm-hmm. Gli chiedi cosa gli hai fatto. Sì. Diciamo che... È iniziato come un esperimento, ma ha portato dei risultati veramente insperati. È stata proprio una fortuna avervi incontrato. Me ne ricorderò, forse. E vedete che appunto Byrne si avvicina con questi oggetti al corpo dell'angelo, dice alcune parole magiche, pregne di potere, e mentre lo fa Thanas senti la rabbia per le cure che avrebbe dovuto fare a noi tutta la campagna. A parte quello, sceva lutto. Senti come un calore venire dalle parti del corpo che, tra virgolette, hai dato in prestito, come se anche queste venissero, come dire, vibrassero in sintonia con quelle di Ilia. Mm-hmm. E... sì, la strada giunge, è stata un'insperata sequenza di eventi. Il fatto che abbia generosamente donato una parte di te per salvare la vita di questo giovinotto mi ha aperto delle possibilità e delle porte che pensavo irraggiungibili, ma si vede che ancora una volta mi sono sottovalutato, perché non c'è niente che io non possa ottenere. A parte doppia superbia, doppia caduta, a parte, cioè, a parte. Ci stava tipo a parte Irina, freccia. Le ferite nelle ali spezzate si ricompongono del corpo dell'angelo, ma rimane ancora sdraiato per terra, privo di sensi. Che la mia risata interiore un po' si smorza. Bene, dice Strad, andiamo, mia regina. Loro si incamminano di nuovo verso il centro della stanza da dove sono spuntati. E Strad vi dice, vi ringrazio veramente dal profondo del cuore, uno almeno di quelli che tengo nella mia riserva. Io chiedo se posso rivedere la testa della bambola. Oh no, questo era la prova della tua fedeltà, non vorrai rimangiarti la parola data. Proprio adesso. No, ma il compito, no, ma il compito ormai è svolto. Oh, non... Purtroppo, sperando di non abusare della vostra pazienza e buona volontà, c'è un ultimo compito che avete e poi potrete considerarvi liberi. Dobbiamo fargli le damigelle d'onore. Ah, io sono un bravissimo wedding planner. Cabro magari, però bravissimo. Però so che a Barovia va comunque, cioè nel senso, gli scuoiamenti, gli standard di pelle umana vanno, quindi. Ma prima c'è una spinosa questione da risolvere. Sapete, vero, che purtroppo ho una serie di responsabilità da regnante in questa terra che mi obbligano a seguire le leggi di questo posto, perché che cosa sarebbe uno stato senza, se non si rispettassero le sue regole, cadrebbe nella più completa anarchia. E quindi purtroppo c'è una questione che è in sospeso con voi. Non molto tempo fa era giunto a voi un messaggero, un diplomatico anzi, e non è stato trattato in maniera molto diplomatica, e anzi è stato attaccato e è stata tentata la sua vita, e questa purtroppo è per la legge di Barovia una terribile offesa e una gravissima infrazione delle sue sacre regole, e per cui vi lascerò espletare queste lungaggini burocratiche con chi di dovere. Arrivederci, forse. Vedete che lascia cadere una di quelle palline che si trovavano nella stanza del braciere e viene ingoiato da una gigantesca fiamma blu insieme a Irina e al vostro amico. Se così Io corro dall'angelo. Spesso abusiamo. Ok. E mentre stai per fare il primo passo, la fiamma blu persiste più del tempo che ci aveva messo la prima volta. Comparirà Radi. Che bravo. C'è un modo per eliminare questa cosa, no? Uccidere Radi. Sì, non abbiamo le forze, purtroppo. Che cosa devi eliminare? Volevo eliminare sto passaggio. Lui lascia cadere la pietra. Userò questo. Tecnicamente, se ti butti in mezzo al dire che ce l'avevo una volta. Se ti butti in mezzo alla fiammata blu, puoi andare dall'altra parte. Quindi. Chi lo sa? Sì. Oppure venire bruciato. Ma starà usando un'altra pietra, non è che non per niente per formare Radi. Ok. Io avevo messo delle pedine qui. Sì, c'è solo un piccolo problema, cioè non possiamo affrontare questo. Forse c'era anche Radin qua. Ah, che carino questo. No, no, soprattutto senza, cioè non potremmo in questo momento neanche con Arci e Salva, ma così proprio. Ma più o meno qualunque cosa adesso non potremmo affrontare. Cioè, in un turno siamo tutti. Che cazzo, smetti a divertirti, maledetto. Non sono io questo. No, catta, ho detto infatti. Allora, se io faccio così. No, io non ho proprio più niente. Ma perché? Compare Radin circondato da un branco di lupi crudeli. Ma Reis ha il suo flauto, non è che lo suona. Vabbè, se no moriamo. Perché non abbiamo ucciso Irina, scusa? Tipo per avere una pallida possibilità di sopravvivere. Luz, c'è il tuo personaggio. Ok, allora tiriamo l'iniziativa. Tiriamo. Vediamo 16 21. Ah, scappiamo. Vediamo. Se Vez ha tirato alto, quindi tiriamo tutti altissimi. No, o si ripiglia l'angelo, e allora forse una chance che abbiamo. Yeah. Ho tirato con vantaggio, ho fatto un 1 e un 3. Clamoroso. Quindi è 5 la mia. 23. Dobbiamo scappare, non so. 23. A meno che il tizio con le ali non diventi fortissimo e ci salvi il culo. E non abbiamo magia, non abbiamo niente. Sono 10 lupi e Radin, dove vogliamo scappare? Fuori, a muzzo. Credo che siamo più veloci. E ci sarebbe anche una progenie vampirica di fianco. È legata. È vero. È legata. Ma non sono sulle scale, vero? Quindi io non sono minacciato. No, sono sotto. L'unico in corpo a corpo, quindi sono io, di fatto. Vabbè, adesso sì. Vediamo chi parte. Ah, io ho fatto 5. Arrabbiati! Ok, direi che... Non so se ho finito le ire io. Assoluto. Ah, se non lo sei tu. No, ne avevo ancora una. Sì, ho l'ultima. È vero che l'altra volta ho detto non la uso, mi viene detto, come non la usi, vedi? L'ho tenuta saggiamente. Potrò scappare più forte. Potrò scappare ma arrabbiato. Arrabbiato, esatto. Bene, direi che il primo è Atanas. Fuggite, sciocchi. Oh, cioè, è abbastanza inutile di qualsiasi cosa. Si va giù combattendo. E vado dall'angelo. Ok. Con un movimento avevi già visto che c'eri. Guardo se ha la spada. Sì, vedi che al suo fianco, legata alla sua cintola, c'è l'elsa della spada che brandiva. La impugno. Hai in mano l'elsa della spada. Poi niente, perché mi sa che non mi si attiva. Spad. Oh, questa era mia. Mi ero dimenticato. Provo, boh, tanto un'azione di movimento l'ho fatta, non posso fare nient'altro, col resto provo a parlare con la spada per chiedere aiuto. Allora, tu parli con la spada, vero? Chi potrebbe anche risponderti. Allora, poi io provo a parlare col mio martello, vediamo. Vediamo se funziona. Esatto, la spada comunica trasmettendo emozioni alla creatura che la porta o la brandisce. Spada comunica, tu capisci che sei fottuto. Ok. Vabbè, l'unica speranza è che o arriva Hexa Thunder e gli fa il culo. No, lui non gliene frega un cazzo. Oppure ammazza voi. E la spada ti comunica ti comunica rabbia e avversione, principalmente nei confronti di Strad, con una ha una, come se avesse un conto in sospeso, una diatriba personale con lui, ma anche nei confronti di chi lo impugna, di chi la sta impugnando in questo momento, percepisce una forte avversione, come se non lo non considerasse Atanas degno di toccarla e di brandirla. Neanche alle spalle stai si fa. Oh, vabbè. Beh, quella in generale non lo so, ma questa sicuramente no. Vabbè, niente, il mio turno è comunque finito. Cioè, io provo a convogliare il fatto che ci sia uno dei servi di Strad lì, la vendetta, la sete di sangue, però fine lì. Volendo, se hai una qualsiasi arma da lancio la puoi usare. Ma rega, vogliamo provare a combattere con questi? Cioè, moriamo subito, penso. Ah, vabbè, tanto se scappiamo, moriamo, perché ci inseguono. 10 lupi ci inseguono, il problema è quello. Se passiamo sopertugio? Se passiamo in questo pertugio abbiamo modo di bloccarlo, di far crollare, di... Non so. Forse. Per esso non puoi modificare la roccia, l'ambra, qualcosa, no? Non volevi dire sfortuna. Boh, rega, voi fatti, io combatto, al massimo morirò io e voi mi salvate. Ma no, perché non moriamo tutti? Cioè, non so come dire. Moriamo vabbè. In un turno, tipo. Sì, esatto. Ho capito, ma allora non cambia nulla. Io sparo su... Magari ha ragione, però se ci infiliamo e facciamo crollare... No, non ci arriviamo. Non ci arriviamo? Beh, voi che siete sopra... Boh, se c'è l'anchilosauro ci mettiamo il cazzo di anchilosauro davanti. Ma non c'è l'anchilosauro. L'anchilosauro è stanco e sta dormendo. L'anchilosauro è al piano di sopra. Sopravvivono Arci e Salla, sostanzialmente. Beh, scusa, tu Giulio potresti giocarti la carta del strade il mio padrone. Portami da lì. No, non se ne frega ormai. Allora, aspetta... Devo solo decidere se sparare al lupo o a Radi. Vabbè, tanto tirare una freccia mentre stiamo anche scappando non cambia niente. Questa freccia non cambierà nulla. Vabbè, dai, sparo. Per principio sparo a Rani. Sì. 19-16, mi sa. 19 colpisce. La benedizione dà un più uno anche a colpire, no? Aspetta. No, non credo. A parte che, scusami, mi sa che quella l'avete persa. Perché? In questo preciso momento. Abbia lasciato che prendesse Irina, credo che... Che benedizione. Il piumo della luce. Beacon of Hope. Che cosa? Perché l'abbiamo persa? In questo preciso istante. Perché abbiamo perso il piumo della luce? Perché il piumo uno lo becca chi si oppone a Strad. Capito, Catta, abbi pazienza. E sia lì che il maggiore di noi ha due punti ferita. Cioè, che cazzo vuol dire? Cioè, se mi dici ha tirato giù il tempio con la luce, ok. Mi sembra un po'... Sì, l'effetto effettivamente puoi intuire, puoi solo no, nel senso, cioè... quale sia. Però, vabbè. Mi sono rotto i coglioni. No, avremmo dovuto cercare di bloccare Irina, cioè di tenere. Riga, ma ho capito, ma abbiamo due punti. Terribile, cioè non è che. Cazzo vuoi fare? Sono d'accordo con te. Però il concetto era quello. Sì, non abbiamo fatto niente per fermarlo. Insomma, abbiamo provato a parlarci, a dirgli guarda, fai questo, fai quello, e poi lui ha detto ah ragazzi, grazie, ora vi inculo. Dai. 4 danni. Così dall'inizio. Oh, facciamo un focus contro il tizio o proviamo a uccidere lui? Sì, vaffanculo. È indifferente. Ma ammazziamo lui con una merda. Sfortuna. Ah, ma tanto. Ma quindi combattiamo? Ma sì, senti, basta con sta campagna. E poi do un calcio all'angelo cercando di farlo risvegliare. Cioè, non un calcio per fargli del male. Ma tipo... dai, devo giocarsi così. No, ho capito, vabbè, dai. Cioè, poi voglio dire... Ma Radi è su un cavallo, sull'incubo o no? No, è a piedi, capito, era possiamo la prima fare un riposo da 40 sessioni, ragazze. Camisella. Vabbè, provo il riflesso. Cioè, ha fatto 20 18, combattimenti, eh. Un 26 a colpire con 10 danno. Ok. E un 9 con 8, quindi un mancato. 10 hai detto. Non esplodono qua i dadi, vero? No. Ho fatto anche la cosa. Fortuna. Ok. Ah, quindi Radin sente arrivare su di sé questa savella di energia oscura. E ti sei dimenticato di fare X. Ah no, no, quello non posso farlo perché erano slot. Ho dimenticato di suonare. Oddio. Ok. La colonna sonora di Doom. E do con questo, con l'azione bonus, inspiration, non inspiration, ispirazione bardica al barbaro. Oh. Ispirazione barbarica al bardo. Ok. Ok, questa era sfortuna. Allora, dicevo, Radin prende questi 10 danni in faccia e si gira arrabbiato nella tua direzione. Ok. Tira fuori due dardi e te li lancia addosso. Almeno se gioca a freccette non è così male. classe armatura. Senza luce. 14. Ti colpisce con due dardi che quando sfiorano le tue carni senti le ferite bruciare per via del veleno. Quindi il primo dardo infligge più 12 danni. Il secondo dardo altri 12 danni. Sei a 3, Marco. A 3. Ma noi siamo in vita per i 13 punti di Marco, giusto? No, quelli sono andati da un pezzo. Da un pezzo. E quindi io sono a 3 senza quelli, al netto di quelli. Sì, sì, prima vengono tolti quelli temporanei. Ah, ok. Vabbè, vedi, atteliamo, non è che siamo 3. No, che atteliamo? Bardistran. Siamo tutti a 5 punti ferita di media praticamente. Beh, lui, perché lui è attaccato da lontano, però, giusto? Sì. Ha tirato dei dardi addosso a Sfortuna. Quello che mi rompe. Cioè, gli ha fatto 24 danni in un turno, moriamo tutti in pochi turni. Beh, ma se io passo, i lupi non hanno ancora agito, quindi posso entrare tra di loro senza prendere attacco d'opportunità. Vuoi andare ad attaccare Radin? Loro non hanno ancora agito, quindi posso. È che non hai lo spazio per raggiungerli. Ah, cioè, puoi attraversare il... No, sai, cioè, vuoi dire... no, esatto. Beh, se faccio un athletics e salto un cazzo di lupo di merda... Loro lo possono sovrapporsi a migliaia, ma tu non puoi passare. E se salto sopra un lupo? Sulla schiena di un lupo? E poi dove atterri? Sulla schiena di un lupo, sulla testa. Sì, non puoi poi passare sul suo sul quadretto. No, io gli salto sopra, infatti. O salto oltre. Sei sicuro di voler fare questa cosa? Non posso farlo? Ci puoi provare. Non è una cosa molto facile da fare. Ma in teoria salto può occupare il quadretto se poi si sposta, no? In che senso? Che può sovrapporsi e poi spostarsi indietro. No, non ti puoi sovrapporre allo spazio di un nemico. Non puoi condividere lo spazio di un nemico. Ma i nemici non valgono come terreno accidentato, per noi meno. No, valgono come terreno inaccessibile. Ok, allora voglio fare questo. Dai, rega, che al massimo la prossima settimana un Brimperi, quella dopo nuova campagna di qualcos'altro. Giocheranno Salla e Argi, che però non ci sono mai, quindi si troveranno più avanti. E se io vado dalle scale e mi lancio giù su di lui per attaccarlo? Oh, figo. Ok. Posso? Dai, fa ste cose per la gloria. Cosa è rimasto? E urlo: questo è l'onore che avete a Barovia, vergognatevi! No, Vez, devi urlare per Arci! E cosa faccio? Un tiro per Athletics o per colpire? Cosa vuoi? Fai un Athletics per riuscire a saltare abbastanza in lungo. 11. Hai tirato bassissimo? Sì, 2. Però la distanza non è molta, quindi diciamo che riesci ad arrivarci. Posso attaccare? Puoi fare un attacco. Vaffanculo. 1. No. Hai tirato uno. Usa l'inspiration. No, l'ho finito. Ho finito tutto, rega. Non ho più niente. Posso darti la mia inspiration? Arci ha detto che possiamo tirare i dadi noi, lo usiamo. Dai, versi, do la mia inspiration. Ci starebbe che a questo punto un anchilosauro. Ho il mio secondo attacco. No, non hai il tuo secondo attacco. Vabbè, posso dargli la mia inspiration? Ma no, cazzo, fammi finire così di merda. Dai, è stata epica la morte. È stata oscena in realtà. Vai. Dai, ammazzami. Dai, ammazzami. Allora, no, sì, nel senso l'anchilosauro lì potete provare a chiamarlo e al piano di sopra magari. Ma lascialo dormire, dai. Comunque sì, se non succede altre cose sta Garrosh. Vai. Cioè, gioco prima dei lupi? Sì. Oh, ho tirato. Vabbè, cosa faccio allora se non ci ritiriamo malamente? Attacco dei lupi. Tu puoi anche ritirarti se vuoi. Ma non so quanti punti ho, in realtà sono quello messo meglio, credo. Nei 33. E allora, quindi neanche io riesco ad arrivare. Pensa che hai quasi il doppio dei punti ferita del secondo di me, che sono il secondo messo meglio. Allora, si può condividere il quadretto di un amico, giusto? Quindi io posso condividere il quadretto. Ma io sono dentro lì in mezzo praticamente, sono tipo sotto le gambe del cavallo che sono per essere schiacciato. Vabbè, no, il cavallo non c'è, ho preso la prima immagine che ho trovato. E no, perché non ti puoi fermare per fare l'attacco sopra di lui. Ah, potrei solo passare. Mm-mm. Quindi l'unico modo è fare un'acrobazia come ha fatto lui. Mm-hmm. Vabbè, io posso correre sulle pareti, quindi dai, sì, posso farlo. Devo tirare qualcosa, un acrobatic. O un athletics. Tira qualcosa. 14. Ok, riesci a lanciarti contro di lui. E poi faccio un attacco solo come ha fatto lui. Sì. Ma se vado in ira, vale come carica. Sì, quindi ma tanto fai un attacco solo. Ma posso fare quello extra? Considerare quello extra? Sì, puoi considerare quello extra. Dato... Che faccio più danni. Bravo, bravo Chiatta. 20. Quindi direi che lo prendo. Non di dare, purtroppo. Ricordati che hai ispirazione bardica. E cosa mi dà pure? Un di 6 in più a quello che voglio. Sì. Ma funziona come quello di Vez, che lo spendo una volta? Sì. Sì. Ok, allora lo metto in questi danni qua. Hai tirato su Roll 20? No, no, sto tirando veramente. No, ho messo io... Ah no, era Discord. Ne pare che cosa fa. Ah, ok. Ah, e ho fatto 9 più 12, 21. 21 a colpire, lo colpisci? No, ho fatto 20 al colpire e 21 danni. 20 a colpire, lo colpisci, 21 danni. Sì, okay. Ho parlato anche un po' col mio martello, per vedere se... Cosa ti ha detto? No, non ha risposto per ora, aspetta, ho detto che mi scrivi. Ok. Bueno, lupi. Allora. Ma perché sono finito dietro i lupi io? Perché hai fatto questa la parabola, l'hai attaccato e sei finito dall'altra parte. Ma io volevo stargli addosso come ha fatto Vez. Ah, ma tanto io ti lascio il posto tra poco, non ti preoccupare. Ho capito, volevo stargli addosso per continuare ad attaccare. Vai. Posso farlo? Tu no, non puoi. Come no? Ma perché? Ma come? Cioè, io questo si imbalza sulle piastrelle, riesce a farlo, io che corro sulle pareti. Ma no. Io sono schiantato a terra, tipo, comunque considera che vengo mangiato dai lupi in questo momento e il riso da più tutto a Barovia. Vengo pisciato addosso da tutti, praticamente. Rega, dobbiamo tutti invocare la narrativa. Facciamo la narrativa, sta scena. Narrativa, dai. Ho capito. Se voleva che la giocassimo, ci dà la possibilità. Niente. O non era previsto. Ah, sono dei lupetti. Vediamo il lupo. Dei lupetti, abbiamo 3 punti feriti di media. Dai, mo, Che lamentosi. Dai, 20, allora, 20, 20, primo... come hai sempre tirato dalla prima sessione. Beh, questo è facile perché si danno vantaggio. Tattiche del branco. Sì. Beh, sì. Sì, grazie. Grazie Marco, non serve che lo aiuti. C'ho la scheda sotto, non è difficile. Allora, i primi tre contro Atanas. Allora, il primo lo morde. Non sono mannari o robe strane, sono lupi crudeli. Normalissimi lupi crudeli. Terribile questa, capito? Cioè in realtà anche con Arci e Salla no, in questo momento non avremo speranze in realtà. Ma no. Con Arci sì, avremmo potuto far fuori il coso. Ragazzi. No. Allora, il primo ti fa... No, perché anche loro, anche Arci avrà finito gli incantesimi. Il primo con un morso fa 11 danni. E poi fai il tiro salvezza sulla forza. Non, per... non tira neanche a colpire, quindi. Boh, tirato un 19, direi che lo colpisco di dado. Giulia in realtà ce l'ha alta. È 18, no, però. E comunque, la luce, poi. 13, perché ha tirato 2. Beh, l'hai passato. Secondo. Ho 7 ecco. Punti ferita. Questo ad esempio ti manca, dai. Il terzo fa 19 al colpire. Mecca. Sono 10 danni. Giuno. Oriuno. Proprio quando aveva la spada, finalmente. Pezzo, banna il bardo. Fuori uno, banna, poco, basta, fuori due. Non vogliamo più. E basta. Disconnetto. Sfortuna. Ma sta curando l'angelo, non mi sono curato anch'io che ho sentito. Hai sentito l'energia, ma purtroppo. Che ironia. Non hai più palle di fuoco, vero? Sfortuna, non hai più palle di fuoco. Ho usato l'ultima. Sarebbe prima. Stato bello un total kill party. Mm-hmm. Fatto da vabbè, l'unica cosa è che sfortuna morirà, ma poi si resusciterà. Questa è l'unica cosa. Sfortuna, il primo ti manca. Tra ma l'altro, scusa, arrivano da me? No, in realtà, sì. Secondo me ripartiamo tutti. Ma qualcuno di voi ha mai giocato 3PG in un'unica campagna? Potrebbe essere un record. Ma tanto qua l'anima non abbandona. Potrei giocare l'anima dei miei personaggi che vaga. Ok, il primo manca, il secondo? Allora, il primo manca e dopo che ti ha attaccato si allontana da te. Lo sfrutti l'occasione per fare un attacco di opportunità? Colpiscilo con quello no. Che hai a disposizione, tipo cosa no? L'acciarino, la pietra focaia. Mi serve la reazione se voglio sopravvivere al secondo e mi becca. Ah, ok, allora va bene. Il secondo ti attacca e ti manca pure lui. Ok, poi ci sono... Questi erano quelli di sfortuna, i due su di Vez. Ti allontana il secondo? No, il secondo rimane lì. Vai, facile, facile. Primo ti manca. Come fai a saperlo? Io ho molto bassa la classe armatura. Io ho tirato 1 e 2 con vantaggio. Preso. Il secondo ti prende. Ale, fine. Come fai a saperlo? Lui la classe è molto alta. Appena detto il contrario. Comunque fa solo 6 danni. E vabbè, e basta tanto. Uso cutting words, parole taglienti per sei giù abbassargli l'attacco. Momento social. Lo beccano solo. Scrivete nei commenti chi sarà l'ultimo a cadere. Cos'è? Momento sondaggio, chi sarà l'ultimo a cadere? Scriveteci. Tu perché sei quello che ha più punti ferita, Sceo? No, non ho capito cosa aveva Marco che non andava. Lo beccano spesso a basso di 3. Sì, non stare a sprecare, tanto io sono morto. Vabbè, abbasso di 3. Che cosa? Il tiro per colpire o il danno? No, il tiro per colpire. Il tiro per colpire che aveva fatto, che io ho appena spostato, però era un... Arbitro! Quanta classe armatura hai? 16 senza la luce. 16. Così poco, i 16? Io ho sempre fatto schifo. Perché hai la natura pesante, scusa? Non lo so, io faccio schifo, non ho lo scudo. Colpisce lo stesso. Struttura piastre da sola va 18. Ho chainmail io. Oh. Marco, no, no, no, cioè, qua non è mai stato concesso niente. Cioè, potevi comprare cosa? Che ho 10 monete d'oro dal primo giorno. Cosa stai dicendo? Cosa vuoi che comprarci? Rubala, rubala. Il primo su di Garrosh. Curiosità, giusto per aggiungere quel... quell'elemento di imbarazzo, di esatto. Con 17 mi avrebbe colpito? Di armatura? Sì, ti avrebbe colpito lo stesso. Va bene, dai. Vale. Io ho 19. Allora. Va bene, ciao. Lui ti colpisce. Hai anche possibilità qualche con tuo strato, forse. Ho detto 19. No. E lui ha fatto... Era 4 contro 23. 1, adesso siamo... E sarebbero sì, 11 danni che ci e però tu di mezzi, giusto? Sì. Esatto. E fai una prova di forza. Forza? Ho vantaggio quindi? Penso di sì. Un tiro salvezza sulla forza, scusa. Sì, sì. Sì, sì, immagino. 28 direi, quindi 17. Lo superi. Pure il secondo ti colpisce. Ah no, no. Minchia. E fa 13 danni che tu di mezzo devo tirare di nuovo? Sì. 17 squadra sperata. Che vince non si esatto. Ricordami classe armatura 19 ti manca oh. Quindi a quanto e sono? E questo è quanto? Giulio ah, 22 Atanas. Fallisco il primo tiro salvezza mo' di morte. Quindi hai un tic. Hai un tic. Fortuna. Sei liberato dello spazio lì vicino a Radi. Sì. Io riesco ad arrivare lì? Dici saltando? Sì, se vai nell'angolino lì basta che ti cali giù dalle scale, però provochi un attacco d'opportunità dal lupo che è di fianco a te. Ah, proprio non deciso di circondarmi fino a qua. No, ce n'è solo uno in realtà. Ah, ok. Però se da qui vai qua esci dalla sua area di minacce. In realtà... Ora che Vardi strane a terra potresti saltare sopra di lui. Atterraggio morbido. Salto sopra Vardi. No. E uso spada fiammeggiante verde. Ah, Green Flame Blade. Se senti un peso sullo stomaco, tranquillo, è solo sfortuna che ti ho saltato sopra. Ha fatto bene. chi colpisce? A colpire. Colpito? Su Radin lo fai? Sì. Ok. Ma che carino, hai aggiunto i simbolini sul mappa. Che cosa carino. Quindi, un di 8 più 3... più 1 di 8 più 4 a un lupo immagino no a Radi questo ah, poi non... c'è il danno al lupo poi c'è il danno al lupo ok quante fai 4 e 4 quindi 8 più 3 più 4 15 e al lupo 1. Ok. Hai preferenze? No. Non credo okay. Importi. E questo era sfortuna. Tocca a Radin. Radin prende la pietra blu, la lancia per terra. Ci hai provato, te lo riconosco. sentite il rumore delle anime che svolazzano sempre intorno a lui, di tutte le persone che ha ucciso, farsi insopportabile. Tutte le persone alla sua scelta che stanno ascoltando questo rumore, quindi che sono entro 10 piedi da lui, e devono fare un tiro salvezza sulla saggezza. Ho il bonus di Vez? Non credo, però è una domanda legittima. Ma è morto, cioè è svenuto. Infatti mi aspetto che ci sia scritto che deve essere cosciente. Deve essere cosciente. È in un secondo controllo. Aura of Courage. Ah, 18 no, Protection. Ah. Esatto, deve essere cosciente. 5. 18. Ok. Allora, Garrosh lo supera. E quindi dimezza solo i danni, che sono 16 psichici. Danni psichici. Atanas era immune. Ma dopodiché, con la sua azione, io sono già a terra. Ah, sì, c'è solo Shiro. C'è solo Shiro rimasto. Sono 18. Okay. Sì. No, 14. Dai, 14, sì. Ok, quindi quanta vita gli è rimasta, ragazzi? Come 80. È rimasta un ottantino. Oh. E quindi fa il suo multi-attack con la sua scimitarra su un lupo. Su un lupo, esatto. Sono troppi, non ci passa. Esatto. E quindi tra un po' vedrò le anime dei miei amici che fluttuano intorno a lui. Che si lamentano, che quindi come al solito. Come al solito. Esatto. Soprattutto quella di Vardis. 18 ti colpisce? No, 19. Oh. Quindi ti guarda, solo si aggrappa alla vita. Dai. Ti fa solo 8 danni taglienti, che quindi dimezzi. Che schifo. Se tentassi la fuga adesso sarebbe molto più largo, però. E questo era Radin. Garrosh, intanto Vardistan fa il tiro salvezza della morte. Adesso lo diciamo quando arriva. Non lo so, non so. Vabbè, a sto punto ti scappo. Faccio... Cioè, dove vuoi scappare, cioè, onestamente. Vabbè, faccio attacco in caute, ma sì. Perché non riposiamo mai in generale? Perché posso Radin, cioè. Farlo, Marco. Posso colpire Radin, cioè lui certo colpisce mai, io colpisco lui. Assolutamente. Primo attacco, 23. Colpito. Oh, si è sminchiata la scheda, perché non vedo più niente. Vabbè, me lo ricordo. No, mi è caduto il dado. I danni al primo attacco sono 9. Immagino di non aver potuto caricare, quindi faccio un secondo attacco normale, che ha un 14 a colpire. Lo manchi, mi sa. No. 19 d'armatura. 18. E allora è finita. Ricordati che hanno vantaggio. Lupi, l'avevano comunque. Sì, lupi sì, però anche Radin a questo punto. Allora, il primo lupo. Vez, devi tirare un tiro per la morte. Tiro? Non mi sbranano? No, ce l'hanno non ancora con me. Non ancora. 2! Minchia, se facevi uno era dopo. Gli ultimi miei tiri sono stati 2, 1, 2. Sì, è vero, mamma mia, impressionante. Comunque se uno di voi fa 20, torna in vita. C'è una speranza. Io, nella sezione di Giulio. Il primo fa solo 5 danni. Io uccido subito. Il secondo ti manca. Il terzo. Scarsi. Il terzo mi fa 12. Quindi non mi becca nessuno. No, ti ho detto, il primo fa 5 danni e il terzo ne fa 12. Ah, scusa. Avevo capito quanto, il colpire. A quanto sei? Aspetta, li stai dimezzando però. Li sto dicendo totali, quindi dovete dimezzarli. 6 più 2 8, eri a 10. Quindi è 2. Ok, sì. Il primo si allontana da te. Fai un attacco d'opportunità? Sì. Colpito, 23. Colpito. E faccio 10 danni. Siamo okay. Ancora lì. Grande. Aspetta, no, avevo ancora vantaggio. Sì, giusto. A 2 punti ferita. E sfortuna? No, mi sa che solo sul primo attacco hai vantaggio con attacco incauto. No. Per controlla, ma mi sembra che... solo quando hai nel tuo, gli attacchi che fai nel tuo turno, mi sa. E forse solo il primo addirittura, non mi ricordo. No, dice ti dà vantaggio e tiri attacco con armi da mischia che usano la forza durante questo turno, però contro di te hanno vantaggio per tutto il turno. Durante questo turno, dice, non sì. Questo round, perché adesso è il turno dei lupi, non è più il tuo turno. Ah, hai ragione. Beh no, penso che io, sai che ho la versione tradotta, penso che semplicemente sia la traduzione round turno, la stessa cosa. Perché poi dice, contro di te hanno vantaggio fino al tuo prossimo turno. No, hai ragione tu. Cioè, okay. Quindi non avrei avuto vantaggio. Vabbè, comunque, 10 ti arrivano minuti. Addosso i lupi di Atanas. Sì. Il primo ti colpisce. Cazzo di inutile angelo di merda che è stato anche curato. 5 danni. Quindi di 2, quindi vado giù. Vai giù? Ok, sì. Bene. Sì. Come bene? No, non dovresti dire bene. No, non bene. Cioè, Ah, dici che l'angelo ci allora. Può curare? Ok. Infatti, la... lui combatte soprattutto. Ah, invece sta lì e non fa niente. Perché cosa facciamo? Cambiamo ruolo o teniamo gli stessi per la prossima compagnia? No, bene. No, io voglio essere malvagissimo. Ma ero... ormai basta pochissimo. Per però in una compagnia di tutti buoni. No, no, io voglio fare tipo Giulio. Cioè, voglio andare tipo lì e tipo uccido a caso. No, raga, la soluzione. Quindi lui tutti giù? Il malvagio in una compagnia di paladini. Mm-hmm. Ok. Sì. Sì. Diventate inconsci. Ma venite stabilizzati. Vabbè, verremo no, curati sì. In prigione. Una roba del genere. Siete... o ex tenerli vivi. Siete privi di sensi e inconsci. Questi me li tengo per il futuro. Quindi non ci accorgiamo di cosa sta succedendo. È stato ucciso quindi qualche lupo o neanche? No, no, no però l'ho... Un po' l'ho ferito, dai. Ci siamo concentrati su Rally e hai fatto 10 danni. Tipo 40. Noi ho di più. No, ne abbiamo fatti almeno una sessantina. Minchia, se avessi fatto qualcosa di utile anch'io, cioè, giocavamo. Aveva ancora tipo tanta vita, non è che... Ho portato sotto metà vita, però comunque... Magari se c'erano gli altri due, no. Potevamo forse pensare di uccidere Rally, ma c'erano i lupi. Certo, no, su, certamente lo uccidevamo con Salla da soli contro Radi, sì, cioè sì, più o meno c'erano 10 lupi in mezzo, cioè, non so fare. Però conta che comunque Salla aveva 10 punti ferita, sì, faceva un turno, ma lui va a distanza, fa tutto di sneak attack di danno, non deve stare vicino. Sì, ma i lupi c'erano, quindi i lupi lo inseguivano. Sì, ma i lupi erano giù, aveva due o tre turni di... Ne aveva massimo uno. No. L'unico era Pac, che comunque anche lui ha 63 punti ferita. Più ma il serbatoio, più il cono, sì, i mastini. Era un dinosauro. Ma scusa, voi i vostri poteri? Che dinosauro. Il cono sarebbe bastato per uccidere tutti i lupi. Non lo può usare finché è dinosauro. Siamo sempre lì. Molto bene. Dopo un tempo imprecisato vi risvegliate. Siamo tipo la Dark Soul. No, quello dopo. Quando uscirete da qui. Però cosa? Mi sono scaricato tutto il setting, tutte le... c'è chi ha fatto l'ambientazione per giocare a D&D nel mondo di Dark Souls. Non c'è moltissimo, però è... Vabbè, cioè, sei morto. Esatto. Oh, la testa, che gemoie. Molto bene. Sono ancora vivo. Sei l'unico che saresti sopravvissuto comunque, perché sai la resurrezione. Sarei sopravvissuto addirittura meglio, perché sarei pieno di vita, invece adesso sono tipo uno. Esatto, dopo... Voglio vedere cosa avrei fatto col tiro del secondo tiro della morte. Va bene. Perché se Shio non fosse andato giù l'avrei dovuto fare. Avrei fatto di nuovo due. Però va bene, almeno era uno. Se facevi uno eri morto. Cioè, stasera siamo carichissimi. Comunque, vi risvegliate dopo, non sapete in realtà quanto, qualche ora. E col terzo avrei fatto 13. Adesso vado avanti. Col quarto 17. Vabbè, il 3 Giulio fa questo. Tutto per l'ultimo tiro. 15. Sarei sopravvissuto. E forse è meglio di così, perché vi rendete conto che il caro Radin ha applicato la legge della Barovia sui vostri capi di imputati, o per meglio dire sui vostri arti di imputati. Notate che vi hanno amputato le mani. Bene, utile adesso. Perché le ferite sono state cicatrizzate. Ma dove siamo? Dove siete caduti? E non c'è più nessuno? Non c'è più nessuno, non c'è più l'angelo, non c'è più il progenie, non ci sono più i lupi. Beh, ottimo, che cazzo facciamo? Vediamo, posso lanciare il Beach Blast così? Proviamo a suicidarci, non lo so. Se ha dei componenti somatici, no. In realtà, se Arce è in giro, forse si può curare. Cos'è rigenerazione? No, aspetta, cioè, ma forse anch'io se riprendo tutte le robe. Esatto, alla fine non avere le mani è una cosa che in dungeon, cioè ci sono gli incantesimi per mettersi a posto. Io impugnare il martello, se vuoi che me ne faccia delle mani. No, ma ci sono un sacco di ci sono gli incantesimi per rimettersi a posto. Questo. Usa i denti, sì, usa i denti. Ma, no, ma non qui, direi. Beh, magari Thunder può farlo. È un Lich, non è un Kirk. Ho capito, c'ha mille incantesimi, cazzo. Cioè. Per uccidere la gente. Vabbè, mi faccio trasformare in un non morto, ok? E mi metto delle mani scheletriche, è un'altra opzione. Sì. Basta, non restiamo qui con le mani in mano, andiamo su. No, vabbè, qui non c'è nessuno. Seriamente, qui non c'è nessuno. Ci sono l'angelo? No, anche lui è sparito. Portandosi via la sua Elsa. Le armi magiche quindi sono andate. No, lo spadone di Vez c'è ancora. Ottimo. Se solo sapesse impugnare. Con i denti. Esatto. Vabbè. È perché non l'ha usato, solo per questo, non sanno che è magica. Ok, cerchiamo di capire meglio la sito. E Patch Eraser, li vediamo? Sì, sono... li vedete. Vabbè, cercano di aiutarvi come possono. Hanno le mani? In realtà non è buio, quindi io non li vedo. Sì, loro sì. Perché loro hanno le mani, non è giusto? Perché loro non hanno combattuto. Esatto. Maledetti PNG. Dai, vabbè. Vabbè, posso dare luce, non è somatica, uso luce. E cosa... Ah, solo perché non è somatica lo vuoi fare, ok, ci sta. Vabbè, illumini l'area. Che... Allora, vediamo, io posso scegliere gli incantesimi. Che cazzo facciamo? Solo che non ho quasi un cazzo di utili. Ma perché recuperiamo, cioè come se avessimo fatto un riposo? No, adesso lo facciamo, no, però. No. Vabbè, voi siete a un PF dopo che è passato un'ora e mezza dalla vostra incoscienza. Io faccio un perception per sentire se ci sono rumori da qualche parte. Mm-hmm. Non puoi, ti hai dato anche le orecchie. Avevo pensato, però mi piaceva di perché le orecchie è per un altro crimine. Quelle Casimir 11. Ma è stato sempre Radin a tagliarle, quindi. E non senti rumore, silenzio di tomba. No, non ce l'ho, non credo di aver poter avere niente. Forse Arci sì, se prende le cose, però. Se potesse darci una mano. Lui ce la può Va dare. bene. Ce l'ha. Intanto io Pezzo perlustro la zona e do una sbirciata alla stanza attigua dove c'è stato il combattimento dei nostri pseudo alleati. Quindi entri nel pertugio? Sì, do un'occhiata come C'è un l'ultimo golem che c'è. bianco. Sì, esatto, direi che può bastare. Molto cautamente. Beh, Vedi. c'è totale silenzio, quindi non c'è. Insomma, mi accerto che non ci sia nessuno nel caso sti cazzi torno indietro di corsa. Vedi Ah, che cazzo, in questa regenerate di stanza. settimo livello. Però lì ci potrebbe fare. Vedi che in questa stanza ci sono sei cumuli di incredibili ricchezze. Totalmente inutile in questa ambientazione, sì. Bastardi. E ogni cumulo è caratterizzato, ad esempio, cioè c'è quella la collinetta delle monete d'oro, quella delle monete d'argento, di Electrum e così via, e incastonati comunque sopra ognuno di questi cumuli ci sono diversi oggetti preziosi, oggetti Che d'arte tanto non puoi e prendere adesso. Beh, così. vari tesori per Oh, questo lo darti voglio, me lo un'idea. porto a casa e faccio così. Esatto. Eccoli qua. Allora, di cose notevoli ci sono. Se posso, ruolo, non me ne Ah, frega un cazzo, volevo solo vedere i cadaveri. Cioè, il mio personaggio no, ignora sì. abbastanza le ricchezze. Vedi per terra i corpi della golem, dalle sembianze di Irina, del corpo mutato di Izek. C'è il cadavere di Casimir e quello del fratello di Irina. E del golem invece golem non c'è traccia. Vedi per terra, ah, giusto, vedi per terra i resti, i frantumi di un golem di Ambra e un altro corpo che tu non avevi ancora visto prima e da delle sembianze abbastanza buffe al tuo sguardo. È un umanoide con l'apparenza, la testa e il pelo lungo il corpo di una volpe. E anche lui giace inanime a terra. Ok, va bene, se non Atlas c'è, Mirth. ti direi perquisisco i cadaveri, ma tu mi rispondi non hai le mani, quindi non lo dico. No, E no, do un'occhiata se effettivamente ci possono essere oggetti o cose ok, che possono un questo è minimo di sicuro di tornarci utili base. anche in futuro, Ok, senza guadagnare più di tanto. va bene. Metti piede nella stanza. Vabbè, ti ho detto che ero cauto. Cosa hai Ho detto? detto che ero molto cauto. Quindi no, metti piede. Ti ha tolto anche i sì. Vabbè, piedi. Metti il naso, ma non è anche quello. Metti gli non occhi, so. niente, non hai niente, niente. Perché Rotoli, subendo danni da altre calcolo creature bene a ogni mio caso. Che non vedi. passo, cose del genere. Non proprio. Vabbè, vai. Entro nella stanza. Sì, Non ti dai. preoccupare. Senti di fianco a te un grosso spostamento d'aria, come se ci fosse un'invisibile massa di un qualcosa di molto grosso, di taglia grande. E ti arriva un incredibile ceffone invisibile di E incredibile potenza. capisco che non è mio compagno perché ha le mani. Senti proprio le cinque dita. Esatto. E provo invidia. Oh, che bello, una mano. Il primo ti manca, nonostante fosse invisibile contro un avversario senza mani, però il secondo ti pecca. E ti fa 19 danni. Ne basta uno, simpatico. Oh, Sparandoti grande Sceo, avevi nostalgia del. proprio invidia. Da dove sei venuto. Quindi adesso sei lì dove sei già. Ok, Tecnicamente gli altri non hanno voi neanche nella visto, quindi stanza. potrebbero abbandonare. non hanno visto, ma hanno sentito un mega ceffone. E tu che fai? Ah! E ti schianti contro il pertugio. Fammi tiro a stabilizzare. Provare a stabilizzarlo? Sì. Scusa, facciamo che Arci lo stabilizza, perché a vedere... credo che sia il divertimento di Katta, credo. Aspetta. Ma Marco è senza mani e senza denti. Io sono senza mani e senza è vero, non ci avevo pensato. Beh, poi c'è il 19 era con poi svantaggio per favore il Walking Dead che è esatto. Un dinosauro 10 vabbè, l'arriva Patka che lo trascina faticosamente dentro il pertugio e lo stabilizza. Vabbè, guardiamo cosa è successo. Tanto. Vabbè, se mi sveglio glielo spiego. Qualcosa di invisibile mi ha colpito. Riposo lungo? Ma... Sì, andiamo su. Andiamo ma su, quindi però. Ti sei abbattuti tutti? Vabbè, scusa, si è dato... aspetta. Cosa hai sentito però... quando ti ha colpito? Aspetta, ho palesato il fatto che sia grande. Hai sentito un grosso spostamento d'aria come se ti colpisse un bestione di grosse dimensioni. Io ti dico, cosa hai sentito quando ti hanno colpito? Insultano un mano. Te le ricordi le mani? ho sentito un grosso spostamento d'aria, c'è un bestione grosso. Ma il materiale che mi ha colpito? Cioè, come se fosse roccia dura. Il golem invisibile, che cazzo. Come se fossi stato colpito da una grossa pietra, sì. Sì, descrivo questa sensazione come se fosse un golem di pietra, però invisibile. Vabbè, non abbiamo tempo. Però il golem d'Ambra l'ho visto per terra. Sì, c'erano i frantumi. Vabbè, non abbiamo possibilità... un grosso spostamento d'aria. Non abbiamo possibilità di indagare in questo momento. Perché... Si vede che si è spostato verso di me, io ho percepito la sua presenza molto grande e poi mi ha colpito. Da quello che capisco però non può passare da questo pertuso. Che cadaveri hai visto? Quattro alleati, esclusi Irina e l'angelo, e il golem d'Ambra, e poi questa creatura umanoide volpoide. Ok. Com'è che si chiamava... pure bambino Ilia. Avete idea di cosa possa essere questo? Io dico Ilia, se sei tu fatti avanti, siamo tutti nella stessa situazione. Per rivolto a Ilia? Dentro al pertugio dico Ilia, se sei tu fatti avanti. Ma è un golem invisibile, c'è una roba di pietra enorme, invisibile. No, tu hai sentito qualcosa che ti ha colpito. Noi alla fine di golem di pietra non li abbiamo visti. Quindi io ho capito, io non lo so che è un golem di pietra, non lo possiamo sapere. La cosa che mi viene da pensare è che sia l'angelo. Non ti giungono risposte al tuo orecchio, solo il silenzio della morte. Beh, poi non avrebbe avuto senso colpire sti cani. Arnistan, non per criticare la sua leadership. Sono stati un'ora fuori a dirci rica, però fate i bravi, poi mi tira una pietra. Ma cioè, cazzo. Direi di salire su e dormire. Proviamo a riprendere le forze e poi pensiamo a un piano. No, adesso non abbiamo molte possibilità. Ma c'è un altro garro, c'è un altro mezzo. Torno su e cerco Exatand nelle sue stanze. Non lo trovi. Non c'è nessuno quando ne hai bisogno. Dai, riposo lungo. Sir Bardistan, non per criticare la sua leadership, però potrebbe prendere qualche poterino. Non c'è... Voi avete preso i poteri, ma direi che non è che siano serviti a molto. Beh, mi ha aiutato a cadere per ultimo. In realtà, se adesso Marco morisse, ritornerebbe tutto intero. Se vuoi, ti dà una mano. Pay no more. Ah no, non posso. Mi spiace. Non sarei molto... Vabbè. No, scherzi a parte, se riposiamo, magari cerchiamo di farlo in una stanza. No, io faccio tipo picchetto, cioè ormai, cioè tipo protesta, sto lì finché non diventa un riposo lungo, anche se No, muoio no, per beh, sì, hai l'attesa ragione, del riposo facciamo un riposo lungo, però a questo punto in una stanza che possiamo lungo. E vabbè, chiudere. lì è, questa qui è Io perfetta. vado in una stanza di La stanza Xatander. di Guarda, ci sono anche Xatander delle si chiama poltrone. fare riposo. Ah, Vez, qui dove siamo in questo momento no, perché cioè, al piano di sotto può arrivare Radin da un momento all'altro con la pietra blu. Io vado nella stanza di No, Xatander. Radin, quel che doveva fare l'ha fatto. Eh sì, però ha ragione Giulio, io andrei nella stanza, quella più a sinistra, che è quella dove dormiva Xatander. Io mi metterei lì, è più tranquilla. Guardo se c'è il suo libro. Non c'è lui? Non c'è il suo libro. Mi accascio in un angolo a pensare. Vabbè, dormiamo nella stanza di Xatander se volete. Nell'altra Facciamo c'erano i turni di le poltrone. guardia. Che turni di guardia vuoi fare che non abbiamo le Vabbè, mani? che è E possono uguale, fare, direi, quelli assolutamente. che non hanno combattuto con noi. E Per ora, non abbiamo le mani per ora. vabbè. Possiamo permetterci di lasciare Reis e Patka a fare la guardia. Senti, tanto più che mutilarci, pisciarci addosso, eccetera, Però cos'altro quella che però facciano? ti ha lasciato l'arma magica. Sono anche se riesco a Dove te la prenderla porti così. dietro? Boh. Non lo so, lascio lì, tanto che mi L'avevi fa. detto in bocca. Il fodero. Se riesco la prendo, se no lascio lì. Che cazzo devo fare? Vabbè, Rin, magari. uno tra Patk e Race te la metterà nel fodero, cioè. Beh, se è Race l'ha già inculata. L'altro è un anchilosauro che Vabbè, dorme, quindi esatto. non so che. Ah sì, il mio personaggio se ne frega, quindi non ho detto a nessuno che c'erano delle ricchezze nell'altra stanza. Quindi Reis non lo sa. Sì, grazie, grazie. Ah. Tanto ormai. Magari E c'è una vabbè, riusciamo a fare pozione sto per riposo fargli crescere le lungo o no? mani? Certo che no, perché come vi ricordate bene, in queste Non stanze si può del tempo non riposare, si Io può sto lì finché non riposare. mi fa fare un riposo lungo. Va Cioè, bene. l'unica è provare a tornare nella stanza. No, l'unica si può provare a tornare nella stanza dove abbiamo già riposato. Però non so se vuol dire affrontare di nuovo dei teschi. Comunque, dopo un'oretta che siete lì, vi accorgete che il riposare non riuscite a riposare, non avete alcun beneficio. Neanche Come breve. fate? Neanche breve. Sì, ma tanto che cazzo Era, possiamo ma fare? sul vocabolario la parola frustrante ce la facciamo Oh, no, Kappa, secondo basta. me. Come a questo E punto? torniamo Io nella. no, Allora. non credo sia colpa di Kappa, la campagna, no? No, Non abbiamo. torniamo nella cosa dei libri. Tiriamo giù i libri a testate dai muri e proviamo a leggerli per trovare l'incantesimo Lils, come cazzo si chiama, quello della merda, quello dove fa la Come fai a capanna di leggere un libro? Elbund, quella roba lì. Il primo libro che apri è bianco, tutte le pagine sono Tiro giù bianche. tutti a testate finché No, non però svengo. Secondo, ci anche avevano detto terzo. le cose per leggere i libri, le Eh? parole magiche. Ci ha detto che Forse. c'erano le parole. Ma è vero. Quindi? Però bisogna vedere quale parole. Aveva detto le parole per entrare nelle stanze. Per i libri non mi ricordo come funziona, penso ci sia un. Ogni Comunque, libro abbia la sua parola. rega un ospite di merda questo. Ah, vabbè, L'ospite a di questo già? punto Boh. torno giù e mi avvicino Proviamo a un'arcana per che capire come leggere sti sarcofago di libri. Vampir. Una alla Non l'abbiamo volta. fatto. Cosa fai, Atanas? Vado al sarcofago di Vampir. Prendiamo Faccio. tutti i poteri, ho un'idea. Prendiamo tutti i poteri, tutti. Merda, Tutti, sì. tutti. Ma Si io sta negli convincendo. mai come lo tocchi il coso Con la coccia di testa, vicino alla testa, Non cazzo! devi parlare così. Ah! Tutti i poteri, tutti! E poi diamo fuoco a Impossibile. tutto. E ci buttiamo nel fuoco. Dai, rega, approfittiamo di questo momento di follia del paladino, portiamolo dai sarcofagi. Ok. E vai da Vampir. Cosa fai? Tocchi Vampir? Con un piedino. Si fa il piedino a Vampir. Fai il piedino a Vampir. Lecca. Dai, prendi il potere. Giulio, Giulio. Super detective. Giulio. è andato Giulio a prendere una mano. Super, a chiedere una mano. Giulio. Niente, cosa mi dice Vampir? Ah, tocchi Vampir, quindi. Allora. E quindi sei giunto fin qui cercando l'antico potere che ha portato il conte Strad von Zarovich a rompere le palle ha permesso al conte von Zarovich di giungere dove è giunto finora. È curioso e sta interessato nell'acquisire ciò che lui è. Sta cercando di combattere il fuoco con il fuoco. Non dito ad arci. Devi sapere con la sua bambola. Devi sapere che questo dono non è senza un prezzo, come molti altri in questo posto. Il prezzo è sangue e deve fluire rosso e fresco da una recente uccisione, ma non un sangue qualsiasi, deve essere il sangue di qualcuno che ti ama o chi ti sarà dura. Reverisce. Questa è dura, Giulio. Ucciso dalla tua mano. Se bevi quel sangue, il patto è sigillato. Il patto è. Ah, quindi lui è ucciso. È oppure. Chi ha ucciso lui? Sarà sufficiente il tuo stesso sangue finché tu venga ucciso da nemici che ti odiano mortalmente. Molto più facile. Ehi, questo si può fare, grazie. Solo allora otterrai la gloria dell'immortalità. Per la cronaca Strada ha fatto entrambe le cose. Esatto. Ha ucciso il fratello. E poi subito dopo è stato ucciso dalle guardie traditrici. Io chiedo come faccio a riavere. Sarcofago sbagliato. Beh, una volta ottenuto quello che ti garantisce il mio potere, non avrai più bisogno di alcun altro. Sarà la notte a portarti in giro e saranno le sue creature, i tuoi arti. Sì, beh, lo vedremo. Comunque accetto. Ok. Accetti? Una volta ricevuto il dono, il beneficiario ottiene il seguente difetto. Sono circondato da nemici nascosti che cercano di distruggermi. Non posso fidarmi di nessuno. Ma non mi pare che Strada abbia sto difetto, comunque. A me pare che Giulio ce l'avesse già. Come prima, ormai come te. Cioè, come ormai tutti. Sì, come tutti. No, il fatto che il problema è che mi sono sempre fidato di Ardistram. Alla fine. Sì, ma il problema è che adesso tu ci vedi tutti come nemici. Come sei sempre fidato di me? Cazzo dici? Che cazzo dici? Non hai capito. Sono una trappola, scappa. E quindi tu adesso vedi tutti come nemici. Penso che la gente mi trami le palme. Cioè, quindi adesso ci uccidi. Grazie. Senza mani, a testate. Quindi ci uccidi. Sto prendendo i muri a testate. Sconfiggi Strada e ne prendi il posto. Top. Rega, dobbiamo. Abbiamo molte scelte. Di avere le mani, distruggere Vampir. In questo modo nessuno potrà più avere quel potere. E visto che. Io probabilmente non ero riuscito. Vabbè, suppongo. E visto che probabilmente io non riuscirò mai a uscire da qui. Ah, no, a fare, ad adempiere alle condizioni contrattuali, il potere se rimarrà così. Perché dici? Dire così, Giulio. In che senso? Beh, perché la prima è impossibile. Perché nessuno ti ama. No, in realtà basta, esatto, che ti tradisca qualcuno, no? Beh, no, basta solo che venga ucciso da un nemico che lo odia. Ah, un poi nemico sì, che ti odia. Vabbè, ma sei pieno. Anche amici che ti odiano. Scusa, hai anche solo l'angelo. Ah, è vero, sei anche l'angelo. Vabbè. Giulio, agile, agile. Anche solo la spada ti odia. Ucciditi con la spada dell'angelo ed è fatta. Esatto. Ma deve ammazzare qualcuno che lo ama o qualcuno che lui ama? Qualcuno che ama a te. Che ama lui? È possibile. Oddio, amare è una parola forte. Diciamo sopportare. Se basta sopportare, sì, ci sta. Oppure ti, come in italiano, ti riverisce, ti venera. Sì. Seppius. Ah no. Ti rispetta. Sì, no. Riverisce. Riverisce. Sì. Ma è pieno di interpretazioni. Vabbè, siamo tutti un po' suoi schiavi, quindi non so cosa intendi. No, non sono Cypher, purtroppo. Perché se fosse stato essere schiavo del personaggio di Giulio. Se fosse stato Cypher avrei avuto il potere di distruggere Strahd. Vabbè, basta che tu ti trovi un adepto in giro per Barovia e poi l'ammazzi. È la prossima campagna, Giulio, devo... Vabbè, non sono facili, non c'è problema. Solo che il problema è che noi non recuperiamo le mani, e senza le mani non abbiamo... Cioè, potrebbe essere uno scontro molto divertente, ma... Non... Beh, potete... puoi prendere quello che ho io e dopo puoi rigenerare. Cos'è quello che hai tu? Quello di resuscitare. Potete prendere quello che ha preso lui e resuscitiamo. Facciamo un bel suicidio di gruppo. Non è nei personaggi, però. No. Sì, no, giustamente. Non mi ucciderei neanche io, penso. No, no, però... no, allora, qua è pieno di incantesimi. O non so se Arce ha qualcosa di utile, ma no, in realtà. No, ho cercato l'unica rigenerazione che è di livello 7. Sì, faccio un'investigation per capire dove possa essere andato Xatand. Ok. 19, no, aspetta. 23. Ok, trovi una porta segreta nel suo... Social Giulio? Dimmi. Nella sua stanza. Che non avevamo visto? Che... No, quella l'ha tenuta volutamente segreta. Che pezzo di merda. Ci andiamo, se non so. Ma sì, tanto. Posso fare un detect magic rituale? Richiede componenti somatiche. Bastardo. No, ah giusto, ok. Se è somatico. Okay. Vabbè, non può agitare i moncherini, dici? Riga, vabbè, decidiamo chi entra per primo, facciamo a pari o dispari. Mora cinese, fate voi. Dov'è sta stanza? È in alto a sinistra. Che non vediamo? Sì, vedi che c'è una stanzina, quella più l'ultima. Quello con qualcosa dentro? Esatto. Ah, entro, però non è in alto a destra rispetto a quella alla stanza di Exatander, no? Rispetto, sì, alla stanza è in alto a destra, okay. Sì, io dicevo rispetto okay, okay, a voi. Ok, ok, ok. Dai, entriamo, entro. Sì, io appena la trovo entro e dico agli altri... di seguirmi. Hey ho, ah no. Ok. Bello, clienti, allora, meglio da fare. Dietro questa stanza c'è una piccola dietro questa porta c'è una piccola stanza polverosa. E nella metà più est della stanza c'è che si innalza dal pavimento questo gigantesco braccio squamato con degli artigli al termine delle dita. Mi servirebbe proprio questo braccio. che racchiude una piccola scatola fatta di osso. Ed è un, questo è un piedistallo, diciamo, scolpito. Ah, quindi e la mano non si può utilizzare. È una specie di piedistallo, diciamo, per questo scatolino. Sì. Exetander è dietro che stava facendo qualche cosa con questo piccolo oggetto. Cioè, fammi capire, è tipo delle ore che urliamo il suo nome a 2 metri da lui e sto stronzo è nascosto qui. No, adesso lo picchiamo coi moncherini, rega, finché non si deve far ricrescere. Forse mi dispiace, stava facendo... non c'è alternativa. Un qualche cosa di molto impegnativo con una cosa che evidentemente per lui è molto importante. Bene, non ce ne frega un cazzo. Ma lui sì. Ma noi no. Io gli dico... Per ora. Exatander, sei qui, ti abbiamo trovato finalmente. Oh, lui è visibilmente sia dispiaciuto sia arrabbiato. Non avreste dovuto farlo. Non volevamo disturbarti, non mi interessa quello che stai facendo, ma abbiamo incontrato Ipostrad. A causa di ci siamo scontrati con Radi, non è finita bene. E visto che noi ti abbiamo aiutato, vorremmo per favore il tuo aiuto. Cos'è questa gentilezza? Comincio a colpire quel moncherino. Aiuto, ci basta! No, ho un punto ferito e non ho alcuna cosa coercitiva se non chiedergli di... Ma è ancora il tuo difetto, Giulio. Male. Bullizzalo. Quale? Bullizzalo. Bullizzalo. Anche se ho i moncherini, sono comunque più grosso di te. Non costringermi a distruggerti con i miei moncherini. Bene, lui risponde: sono spiacente per quanto vi è accaduto, ma purtroppo non avreste dovuto vedere quello che avete visto qui, e ora non potrò più lasciarvi andare. Lui non ha gli occhi, non ha visto niente. Cosa abbiamo visto? Il filattiero del Lich. Cioè... Sì. E con questo... ci vedremo forse. C'è un altro allora, che ci vuole uccidere lì su con un punto ferita. Cioè, perché? Perché? Cioè, perché? Basta, moncherini. È una cosa che non dovevate vedere. Per lui. Io gli mangio il cuore. Vedremo. Bene. Così. Si conclude. Vabbè, cioè, almeno così alla prossima io muoio e finisce lì, perché mi sono rotto le palle, come così dire. Vabbè, possiamo finirla anche qua. Un po' di dispiace. No, se dobbiamo fare un altro scontro, cioè. No, beh, non c'è nessun scontro, vi scoppa direttamente il prossimo turno. Appunto, essendo tipo un mago di 15° livello. Palla di fuoco, tutti morti. Sì. Non quella capito. Cioè qui praticamente tipo noi ci muoviamo, facciamo un passo, ecco, la legge di Barovia prevede che se tu fai un passo muori. Perdi la gamba. No, ma i passi che avete fatto voi vi hanno portato a questo punto. Molto bene. Vabbè. E con questo ci salutiamo. Io faccio il chierico la prossima. Lo dico già per... No, ma io speravo almeno che la chiudessimo a sto punto. No, non è finita. Non è finita. Vabbè. Finché non è finita. Niente finisce mai insieme anche agli altri due, magari. Vabbè, ma loro non come... è finita. Vabbè, ma loro passavano dalla parte di strada, facevano gli alfieri di strada. Perché, cioè, tipo videogioco, se non riusciamo, ricominciamo dall'inizio. No. più che altro è che, cioè, se non c'è nessun modo per riavere le mani, cosa facciamo? Andiamo a fare tipo, abbiamo a colpire gli estracco i moncherini, cioè, che però se la ricominciamo saremo avvantaggiati, tipo prima sessione vino, cioè tipo avremo già degli stand. No, in realtà vabbè, l'unica sarebbe che tipo ci rimaniamo, cioè non possiamo neanche rimanere nel tempio perché non possiamo sostanzialmente prendere è che dentro il tempio non puoi riposare, fuori dal tempio non puoi riposare. Questa cosa è un po'. Cioè, l'unica stanza che potevamo usare per riposare c'è un golem che non ci fa dormire. Forse non c'è Però più. allora il golem è distrutto. Io avevo detto andiamo in quella stanza. Però Ma Giulio ha non voluto l'avete cercare fatto. Xathander, Una stanza che ci distrutta. stava, che ci stava. Boh. Beh, però la posizione della Boh, stanza è che dove secondo me, sono figurati se non ci beccavamo delle altre palle di fuoco dai teschi. Cioè, è il siamo problema, senza mani e con un punto ferita. esatto. Cioè. Infatti il Non problema era sono i Ace l'unico che è stato in quella stanza. Boh, ci sta, in realtà poteva darci una mano alla fine lui. Cioè. Ma infatti il problema, non siamo andati in quella stanza per riposare perché avremmo dovuto passare il corridoio dei teschi e noi non No, ma sappiamo se i teschi riappaiono o non sono morti riappaiono. perché abbiamo messo No, l'acqua saranno santa già, sopra. No, sì, ma saranno tornati comunque, perché vedrai. abbiamo messo Erano l'acqua tornati. santa sopra. Ma saranno Allora potevamo andare a tornati. riposare. Eh già, ma non l'avete fatto. Oh, avremmo riposato senza mani sempre, saremmo sempre stati qui senza mani, cioè. Beh, sì, questo è vero. Questo è vero, però non avremmo fatto incazzare Xatande. Vabbè, ho capito, cioè. Sti cazzi. Voi potete non essere entrati, o dire, o so stare indietro, cioè, muoio No, io. abbiamo detto siamo entrati. No, ma quello non è un problema. Cioè, alla fine, boh, io sono abbastanza abituato. Ma sì. Va bene, allora a questo punto avete visto episodio 70 della maledizione di Katta, che è stato un po' un'escalation di frustrazione. Ah, cioè, neanche la fine in gloria, cioè almeno uccidere uno scontro con Radi, no? Tagliate le mani e poi lì nel tempio, un Non punto è ferito. finita, non è finita qui, che non è Abbiamo visto finita. episodio 70, la frustrazione di Katta, e niente, a questo punto vi diamo gli appuntamenti per le prossime sessioni, e beh, penso l'ultima della mansione di Katta, ma prima c'è Umbra Imperi, giusto? Sì. E Non è niente. detto che se dai, non essere così pessimista. Non essere così Vardistran, dai. No, nel senso che o è l'ultima. E vabbè, bella, e se no dobbiamo rifare i personaggi, però, per fare tipo un episodio, nel senso. Non è tutti detto. un paio. Vabbè, Io non ci credo nel saranno cuore. Arci e Salla, che però tanto Io credo che nel cuore della cinematica. No, no, per me una volta che Atanas muore, questa campagna è finita, cioè, nel senso. Sì, ma Sì, io sono mi d'accordo. rigenero. Athanas uccide Vardistan, diventa un vampiro e si rigenera. Genio! Il Lich in realtà amava Giulio, si scopre così. Bam! Colpo di scena. Boh, Ah sì, comunque sono d'accordo, dopo 70 episodi, buona, forse faccio lì muovere i ci riporta in personaggi e basta. vita come dei non morti. Beh, È comunque finita la campagna, nel senso. Perché Ma come? Dopo che diventiamo forti, voglio giocare. io ho il coso della vendetta. Non so se posso fare il paladino non Beh, come morto. scheletro zombie non è una volontà tua, non sei un personaggio. C'è il Revenant. È vero, gli altri sono tutti così. Diventa veramente un membro dell'ordine del drago Oh, d'argento. finalmente, Esatto. cazzo. Va bene, Però dai. senza mani sempre. Allora, va bene, grazie per averci seguito. Se l'avete fatto, se non l'avete fatto, fatelo almeno sul podcast. C'è qualcuno che ha commentato che ha voluto darci una mano. Ambra. Marco è la nonna che fischia. Avete bisogno di una mano? Ci ha sfottuto anche Ambra. Ma no. La nonna che fischia, non so se qualcuno ha visto Lollo. Nel caso andatelo a vedere, merita. Comunque, prossimi episodi. Prossima settimana, Umbra Imperi, se non sbaglio, vero Giulio? Molto bene. E quindi niente, tenetevi forte come sempre. E tenete care le vostre mani se ancora le avete. Se no, salutatemi Cazza, Radi, ma aggiornati. con un Si fa cenno del così capo. adesso. Si fa Ciao a così. tutti.